lancia. Vai. Subito una cagacazzo la prima puntata. Cioè, ok, benvenuti. Benvenuti al 19° episodio di Game of Thrones. Abbiamo già fatto questa battuta nello scorso episodio di Coloni. Arci. Di Game of Thrones. E questo è il 19° episodio di Unstructured Heroes, la serie in cui giochiamo a Urban Heroes. E non ci ricordiamo esattamente cosa fosse successo la scorsa volta. Sì, l'ho detto prima. Ma no, prima non era in diretta. E vi ricordiamo però che noi siamo Tycoons and Dragons e potete seguirci su Facebook, come forse starete facendo, se siete bravi. Oppure, se non ci state seguendo, siete Giulio. Delle moffette di mare. Però potresti dirlo a un tono. Lo sto scrivendo. Delle moffette di mare, come ha detto Katta nell'ultimo episodio di Coloni. E la nostra pagina Facebook è Tycoons and Dragons, ma ci potete seguire anche su RipGDR, però, sul blog ripgdr.wordpress.com e su Twitter, dove siamo Tycoons and Dragons, e sul podcast, che è quello di RipGDR. E su www.gameofthrones.com. No, quello no. Per ora no. Ma per ora forse, no. Forse nella prossima stagione ci chiederanno di fare un cameo e fare un gioco di ruolo mentre Aria viene a sgozzarci. Va bene. E insieme a me, Andrea Giacomo Vecchi, da Bologna abbiamo Francesco Arcidiacono, Giulio Bosi e, attenzione, non lo vedete da molto tempo, da tutte le parti, Stefano Gamberoni, e da Marsiglia il master sceneggiatore Edoardo, ma anche un po' digno, Salladini. Iscariota. Tua cugina ha detto no spoiler, quindi possiamo spoilerare. Ok, tutto. Allora, la prima scena è Aria, non è Frey. Direi di prima oretta di farla. Ah, no, tra l'altro parte, è tipo indietro di tipo tre stagioni. Ah, vabbè, non allora, sa che muore. Non posso dire, è neanche spoiler. Va bene. La cosa di Aria non è neanche spoiler. Sì. Va bene. Ma dici quella? Io direi che senza ulteriore indugio mandiamo la sigla a pezzi. Nel senso che ora parte qua, che va lentissima. E tra tre minuti... Ma la sigla io riavvio, arrivo. Simpatico come la merda. Vabbè, vuoi regalare? Ma si deve riavviare. Oh, ma qual è quello che... Che cosa sta succedendo? Qual è che loro vedono? Io a quello. Valica non vedranno un cazzo. Beh, però sembra che venga. Tempo veniva. Non lo so. Cazzo era così. Bisognerebbe vedere qua cosa sta venendo fuori. Non credo. Guardo sempre la neve. Da una parte c'è Giulio, dall'altra c'è Archie. Sì, ma tanto loro mi sa che non sanno assolutamente nulla. Ah no! Dai, siamo quasi corretti. Vabbè, togli grazie. Forse questa volta, in via del tutto eccezionale, siete riusciti a vedere la sigla. E questo è incredibile. D'altra parte, non vedete in questo momento il nostro buon Edoardo Salladini. Ma sono ancora ad Arci. Ma non ci serve particolarmente. Ah, eccolo. Non so. Bello come ogni diretta sia soggettiva. Sì, esatto, perché lui è ancora la sigla e io sono qui. No spoiler di fine sessione. C'è uno strano fischio che potresti essere tu, Salla. Sono sicuramente io. Bene. Stai facendo un tè. Riesci in qualche modo. Mettendo la pressione sul fuoco. Sì. Stai mettendo il microfono dove allora. Ci sono gli altoparlanti. Esatto. Sì, fatti un Va bene adesso? Dici? Sì. Bene. A posto. Ciao. Quindi possiamo tornare a parlare di Game of Thrones. Slobody. Va bene. Secondo me va bene. È andata meno peggio del solito, sembrerebbe. Ok, e chi mi riassume? Esatto, chi riassume? Questa allergia alle corde vocali. Allora, l'ultima volta riassunto l'ho fatto io, ed era ieri l'altro, quindi ora lo fa uno di voi. Allora, Io non ricordo bene, però potremmo fare un recap di questo modo. Allora. Vabbè, dai, riassumo io. Va bene. A voce alta, che tutti possano sentire. Vabbè, eravamo andati in questa grotta, di cui non mi ricordo il nome. Chauvet. Alla ricerca Dov'è, soprattutto di informazioni su queste gemme particolari che servono a controllare i poteri o qualcosa di simile. Siamo entrati. Vabbè, prima ci siamo separati da Sheo perché vabbè, eravamo stati arrestati. Io e Sheo eravamo stati arrestati. Sono venuti a salvare. C'era anche l'Ambra, però Ambra muta forma. E Vez ha detto: ehi, ci hanno inculato già una volta col fatto di inculare forma. Dovremmo essere più cauti. Dovremmo lasciare Sheo da solo e lasciarlo morire. Sheo non, in verità non c'era, e quindi la, il plot twist lì è stato di: ah, Vez, sei uno stronzo, e se n'è andato con Ambra. Mentre sempre funzionale. mentre noi siamo andati a fare la missione. Siamo entrati e abbiamo trovato quello che stavamo cercando, più o meno. Abbiamo evitato di essere massacrati da un mega serpente gigante di roccia. Abbiamo preso un libro e siamo usciti dalla grotta. Fine. Cioè, l'obiettivo era entrare per ricevere informazioni più possibili. Per cercare informazioni. Su queste abbiamo preso il libro. Sì, abbiamo trovato dei... cos'erano? Delle incisioni, no? Delle pitture. Sì. Boh, comunque qualcosa. Sì. Esaminandole si è aperta una parete in questa grotta e abbiamo trovato che c'erano degli zombie, tipo quelli che avevamo già incontrato. Sì, ok. E c'era questa camera in cui c'era questo libro sorvegliato da questa statua. No, questi però, no, quelli che i zombie che avevamo incontrato erano dei drogati. Sì. Questi qua, secondo me, erano tipo delle mezze mummie. Sì, sì. Perché erano morti per terra e sono svegliati. Sì. Quindi questi proprio zombie, sì, tipo zombie, non morti. Zombie, sì. Non morti. Non drogati, tipo giù, proprio zombie. Non per... morti. Ok. Ma cosa mangia Tato? Chiudi la bocca. Hai ragione. Geniale. Tra l'altro ha spostato adesso il microfono, sennò prima era. Infatti l'ho spostato apposta. Come tu hai guardato. Bellissimo. Vabbè, peccato. Peccato. Vabbè. E... ok, questo libro sarebbe. Cosa? Non lo so, siamo usciti col libro. Non lo sappiamo, siamo usciti col libro. Allora, siete usciti dal... che tra l'altro questo libro è stato tipo maltrattato, lanciato come una palla per cercare di scappare. Siete usciti da questa stanza e da questa grotta nella grotta, da questa stanza segreta. Siete tornati nel museo, no, nella grotta principale. Come, la scorsa puntata non si chiamava Una notte al museo, vero? No, si chiamava, non mi ricordo. Era figo, nato così. Sì, tipo leggenda passata. Arci è enorme, un altro commento. Mettimi piace. Mettimi piace. Ma mettimi piace tu. Cos'è? Ma è la pagina dentro mi piace, non io. Ma io non sono la pagina, io se commento. Neanche sono la e interagisco come me, pagina. Lui la pagina. Pagina. Pagine. Salami, mettimi, condividi con il GDR così evito di perderci 40 minuti senza capire come fare. Sì, cioè basta usare un computer. Sono troppo divertente. Come Jack. Io non mi ricordo neanche come si gioca. Si può togliere la recensione di questa pagina? Boh, sono il D6. O il D8. Sì, no, quello sì. Però mi... che è male, siete usciti dal coso. Perché ho autoschedarci? Ah, ecco che ladro di merda. Butto coglioni. No, butti coglioni, va bene. Tanto scheda Vez, questa è la mia. In realtà non siete stati dentro molto, siete stati dentro un paio d'ore. Sì. Ma questi zombie li avete malmenati e no. Sconfitti? No, in realtà siamo scappati. Non uscivano dalla stanza in cui... Ah, ok. Quindi se viene un po' in qua, però sei in quadratura. Esatto. Ah sì, un altro commento era dove è andato il quarto. Quindi Sheo sta in quadratura. Scusate. Come riesci a stare diciamo così. Va bene. Non so se l'ho fatto bene. Cosa? Dice pubblicazione in corso. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Facebook è più complicato del previsto. E va bene. Io direi che a questo punto ci siamo. Mm-hmm. E torniamo di fatto a Marsiglia e quando è possibile. No, come cosa? Siete ancora nel museo, nelle cose, nella grotta. Siete usciti dalla stanza? No, eravamo già arrivati alla macchina. Non eravamo usciti all'aperto. No, eravamo alla macchina. Che avevamo trovato quella borsa d'oro. Io mi ricordo con l'exp nel bagagliaio. Non è vero che sì. Eravamo ancora nella grotta? Non mi sembra. Va bene, la puntata si chiude che voi ritornate dove eravate, si chiude dietro di voi la porta. Ok. Tra l'altro siete usciti all'improvviso di fretta perché stava crollando tutto. Sì. Ok. E allora io non mi ricordo bene com'era sta cosa dell'entrata. E c'era una telecamera che andava disattivata. L'abbiamo disattivata. No, gli abbiamo fatto fare un paio di minuti di buio. Facciamogli fare altri minuti di buio. Però... sei sicuro che si chiudesse così la puntata? L'hai vista? Sì, perché noi usciamo. No. Andiamo lì. Aia. Si conclude così da adesso. Ecco. No, beh, ci sta. No, il problema è che uno comunque rimane dentro. Giulio. Tu. Okay. No, perché? Perché sei invisibile. Se uno deve disattivare la telecamera e riattivarla dall'interno... Non può fare un tuo clone. Oppure. Oh, Sceo! Bravo, Sceo, però non sei lì. Quindi... è vero, potrebbe farlo il mio clone. Che tra l'altro adesso durano un casino. Ha detto punto esperienza e intanto ha scritto qualcosa, potrei anche crederci. Ha scritto meno però. Cazzo. No, ha scritto Sceo e muore. Uccidi Sceo. E anzi che sa il codice di entrata. Beh, quello ma può dirmelo. Vabbè, posso potrei. Rompo le palle per curiosità. Questo posto dove siete che chiamate grotta? Oh, ma ci sei sempre... Cioè, quando tu non ci sei... Vabbè, sì, si chiama Chauvet, una grotta di Chauvet, una grotta di antichità. È un sito archeologico. Però siccome non ci hanno sponsorizzato, non daremo altre informazioni. No, perché ha parlato di telecamera, non capivo. La Francia vuole sponsorizzare. Se la Francia vuole. No, ok, capito. Dicono però che dobbiamo giocare in francese. E va bene, e questa era la rubrica razzismo. E va bene, allora facciamo così. No, parliamo in italiano e poi uno si può esplodere. Caso. Disattiviamo la telecamera. Lo lascio un mio clone, gli dico esattamente cosa fare per riattivarla. E una volta che siamo usciti, siamo andati via, il mio clone gli dico tra tot minuti falla riattivare. Dopo che sono passati, io disattivo il clone. Faccio un tiro per controllo. Ne ho tanti, quindi posso tanti cloni, mi sa. Quante ne faccio? Due alla volta adesso. Devo riguardarci. Tre alla volta? Non puoi controllare e farne solo uno. Credo di no. Non lo so. Cosa? Mi sa che non posso farne solo uno, devo vengono fuori tutti insieme. Vabbè. No, puoi farne solo uno. Sembra assurdo far mettere. Beh, comunque non cambia niente ai fini del gioco. Va bene. Anzi, con tre più possibilità che uno. Magari uno è uno ti ascolti. Devo tirare un D6, giusto? Sì, per ciascun clone. Vabbè, vediamo se uno fa due. Che se mi dice? Va bene, vado. Ma in realtà fallo scomparire, non ha capito un cazzo, fallo scomparire. Di all'altro di assicurarsi che quello non faccia. Esatto. E dice al terzo 1 6 e 1 1. Quello che stai allora, a uno si picchiano. Due fanno, ok. Uno dei due fa, no! Si attacca uno degli altri e comincia a litigare mentre uno va alla telecamera. Bellissimo. Ti immagini lui che guarda altri tre se stesso di cui va bene. E non sono più nudi. Vabbè, facciamo la cosa e poi. Sì, è proprio nudi, let's, puoi farli nudi. Sì, è vero, no, può farli. Sarebbe vestiti, bello perché due che comunque, Salla, lui adesso li può fare vestiti, ma può anche tornare indietro e farli nudi. No, testa di cazzo. Oh sì, siamo divertiti troppo pensando a Vez nudo che combatte con se stesso. Abbiamo una vita così piena. Però cazzo, è bellissimo. Cazzo. Già la prima scena che tu arrivi al pozzo c'è un te nudo che ti parla, cioè sono scene epiche. Ma era vestito la prima. No, come? Sì. Ma come? Una volta era vestito perché non avevamo letto il film in fondo. Ah, ok. No, in teoria la prima attivazione può essere un effetto scazzato più alto. Ah, sì. Ok, peccato perché la scena di ti avvicini e c'è Vez nudo al posto, peccato che va la mano enorme, ma adesso non può fare la mano enorme. Ah, giusto. E vai, che no, io allora fai tutta la gang e uscite fuori. Sì. Fuori siete in questo parcheggio vuoto. Mm-hmm. Con un paio di lampioni che lo illuminano. Prendiamo la macchina che mi ha lasciato non troppo lontano, mi sembra. La macchina di chi era per precisare questa cosa? Sì. Di Kat. Ok. Katta. Mentre vi avvicinate alla macchina... Katta era tua la macchina, visto che ci sta seguendo. Davanti alla strada... Pure prima. Mm-hmm. Vedete un gruppetto di persone in una penombra. Avvicinandovi. Mm-hmm. Ci sono 7 persone. Sì. 7 persone? Sì. 5 sono tutte vestite uguali. Mm-hmm. Sono vestite con un giubbotto antiproiettili e una pistola in mano. Beh, noi non abbiamo le pistole, quindi giubbotto antiproiettili. Una di queste 5, oh! Una di queste 5 tiene una persona legata. Mm-hmm. E la riconoscete subito perché questa persona è Sheo. E vai! Oh, sì, bello. Sono già qui, che bello! E un'altra, tra l'altro, invece... non sei anche il super soldato. Che cazzo di super soldato sei? Vabbè. E un'altra invece non ha la pistola. Mm-hmm. Ma lo vedete subito che ha una testa gigantesca e anche una bocca gigantesca, mentre gli occhi, il naso e le orecchie rimangono proprio come se fosse una testa normale. Mm-hmm. E ha in mano una katana in un fodero. Cos'è che ha gigante la bocca? La testa e la bocca, gli occhi e il naso e le orecchie sono normali. È una cosa orribile. È un personaggio di One Piece. Sì, è tipo come sarei stato io se avessi preso come cioè come difetto la testa gigante, credo. No, non lo so. Un manga. Allora io inizio a urlare per potenziarmi. Yeah! Hai, hai denti definiti o un'unica striscia bianca? O un unico grande dente che attraversa l'arcata superiore? Non lo sai, ha la bocca chiusa. Allora posso sapere che ha la bocca gigante. Che la vedi, no, che c'è mega labbra. Il labbrone è proprio, cioè la testa è enorme, la bocca è proporzionata alla testa, tutto il resto è più. Scusami, sì, però Valeria Marini. Però dovresti farci un disegno, Ti do questo compito. Ti do questo compito perché meriterebbe. Vabbè. Okay, puoi aggiornarmi. Tu Sheo sei legato. Dopo giochiamo il flashback di okay. Cosa è successo. Prima è andato morto. Ambra non c'è. No. Dai, li uccido tutti e 7 subito. Dai. Diciamo così. Ma cosa ci dici con qualcosa? Dipende, voi li vedete, sono abbastanza lontani. Sono una ventina di metri, per cui aspettano che voi vi avviciniate. E sono tutti armati di fatto con pistole o fucile? Hai detto, scusa? Pistole. Cioè, comunque, molto più di quello che abbiamo noi. Tranne uno che ha la katana, quindi sono 5 fondamentalmente, uno ha Sheo in mano. Abbiamo ancora il tempo di tornare dentro la cosa? Dentro la... Oh, sì, però siete a tiro. Ah. Cosa facciamo? Gli direi di tentare la nostra carta, la socialità, diplomazia. Andiamo, parle. Ormai. Raga, sono palesemente più forti di noi, non possiamo tentare uno scontro. Vorrei fare una cosa, un gruppo i giubbotti, un gruppo di pistole. Siete dei vicini livello 5, 6. 4. Senza armi, come sempre, però. Aspettatevi degli scontri, cioè, lanciati. Siamo sempre ignudi. Vabbè. Io ho un binocolo, un passamontagna, un kit di primo soccorso, ho una cagibotta, io giubbotto antiproiettile, e ho un distintivo, un manganello, e ho 600 euro. Vabbè, regali, tutto quello che ci serve. Io in teoria avevo una pistola, io piedi ma palmati. Non credo di averlo. Non ho messo la no, tu sei... Ah, sei, ovviamente sei anche tu, Sceo. Tu in questo momento sei legato e vedi loro che stanno avvicinando. Sono imbavagliato. Sono imbavagliato. No. Ok, posso solo sapere se stanno tendendo una trappola o roba del genere per cui posso avvertire. No, stanno semplicemente aspettando. Io ho un taser. E basta. No, penso che tutti abbiamo dei coltelli adesso a questo punto. Ma tu come... senti, ma coltelli contro pistola, solito. No, soprattutto se abbiamo dei coltelli. Cioè, nel senso, se tentano di scappare li spariamo. Coltelli. Okay. Sì. Sì. Abbiamo un manuale. No, io ho un kit di primo soccorso, un giubbotto di proiettile. No. Ah, e Salla. In questo momento, in questo momento un po' di tensione e mentre è così, io chiedo a Vez di passarmi un coltello. E Vez me lo passa. Perché ce l'ha. Io dico, chi siete? Se non ci muoviamo da qua, tra poco saremo visti. Sarete visti. No, vabbè, e vedi... No, vabbè, cioè, allora non dico niente, mi faccio sparare. Vedi che il tizio fa un cenno agli altri, si allontanano un attimo, fanno un paio di passi verso di voi e continuano a puntare le pistole. Quindi sono praticamente quattro che puntano le pistole, uno che è un po' più indietro che tiene Sceo, e vedete il tizio ha una testa gigante che fa, si avvicina non troppo, è comunque dietro a quelli che vi puntano le pistole e fa «Vi aspettavamo!» Ok, io... Ha veramente una vocina del genere con la testa gigante. Ha una voce così. A parte che tra l'altro io ho 6 punti fatica, quindi sono abbastanza scomodo. Io disattivo i cloni. Dice vi aspettavamo. Così la telecamera non viene riattivata. Gli dico tu... Chi siete, se è possibile saperlo, prima di morire? Solito ottimismo. Non morirete, verrete con me, insieme al vostro amico. Altrimenti lo ucciderò. Uccidilo. Lo vuoi dire tu? Ok. Lo dice a me. Spesso. Abusiamo. Sì, io direi. Lo dici davvero? No, dai. No, lui chiede a lui. Io? Mi ha detto uccidilo. No, tu dici uccidere. Se cazzo è il personaggio. No, aspetta, non ucciderlo. Va bene che abusiamo. Spesso si abusa della parola amici, ma. Raga, io sono quasi morto già 2 volte. Quindi il mio personaggio. Ma l'iniziativa allora. No, non è il tuo personaggio, sei tu. Ma come ti chiami l'iniziativa? Ho capito, però io nella realtà non sono quasi morto. No, parli. Magari nella realtà non diresti ammazza scemo. Eh no, vediamo chi agisce prima. Ok. Cos'hai? È un di 6, no? L'iniziativa 16. 4 2 come al solito. Ci sei, ci sei fortissimo. 4 più 1 5. Io la tiro. Leghiamoci. Imbavagliamo Giulio. Ok. Pezzo di un dado. Scrivo uccidilo col fuoco. Prendi tu di là di che posso sceglierlo. Hai fatto? Sì. 2. Tu pezzo hai fatto? 4. Bravo. Tu Sceo? Vedo che giusto per tirare. Sei legato immobile, quindi puoi fare dopo se vuoi. Io faccio 4. 3 4 e un 2. Quindi tu giuro non puoi dire uccidere. Cioè, pure puoi dirlo. No, aspetta. Ti prego, salvalo, ammazzalo. Guarda, giuro, ti faccio fare una cosa bellissima. Se lo trovo. Cos'è? Vai, agite tutti quelli che hanno fatto 4. Allora, ricordo che siete a una ventina di metri da loro. A parte me. Vuoi parlare tu o posso parlare? Posso parlare? E allora, io gli chiedo... E aspettate, ma possiamo sapere chi siete? Questi qua parlano francese o italiano, Saladini? O inglese. Stanno parlando italiano. Quindi questa vocina è proprio uguale come la sentiamo. Esatto. Non lo so, fan della patria! Esatto. Oh, guarda, Giulio, ti faccio fare una cosa che ti piacerà un casino. Scrivere il tuo nome. Per attivare. Giù! Giulio Imperatore. Passo sbagliata. Ok. Dai. Aspetta, che te stai facendo il tuo turno? Io è la quinta volta che gli chiedo chi sono. E gli però... altri con quattro di compagno. Chi sono? Vabbè, dico... in teoria ci sono io, ma... cioè io l'unica cosa che posso fare, anche non fa niente. Io, no, cosa... io gli ho chiesto chi sono, si può dirci chi ho sono. Ho capito, voglio sapere se fanno qualcosa gli altri. Sì, io gli dico, mi pare da, di capire, così ad occhio, che le idee più, più geniali vengano a te. Ora mi nascondo anche. Sei, ho tirato appena adesso un 6 su sociale e gli dico, in cosa consiste il nostro amico legato là in fondo, nel tuo piano? Ho detto, lasciate le vostre armi, avvicinatevi lentamente. Non abbiamo armi. Come sempre. Io posso avere qualche informazione. Posso avere qualche informazione. Scusa, non ho capito, puoi rivedere un attimo. Raga, fa parte del personaggio. Sì, ho capito, bene, va bene. Però direi anche che io posso avere qualche informazione in più che può tornarmi utile adesso, nel breve tempo in cui posso anche solo dire qualcosa o mi conviene stare zitto e basta. Quante sono? Sei con le armi? Sì, allora, diciamo, quindi lui ha detto di seguirlo, ha detto, cioè, dimmi solo... bene, voi ci pensate, vediamo scelto cosa ha fatto in questi giorni. Cioè, fammi solo capire, allora. Ah, ok, come vuoi, se no fammi solo capire più o meno le intenzioni che hanno. Così... Allora, tu hai preso la macchina con Ambra. Sì. Ci ha chiesto di seguirlo. Sì. Se non ammazzano scemo, E Ambra ti ha chiesto dove era la tua roba, cioè dove andavi in casa, dove in che casa abitavi. Mm-hmm. Cioè, tu o li seguiamo, avevi già detto Giulio, ammazzalo. Sì. Aspetta. Perché stavi andando via, no? Sì. E quindi Ambra ha detto, ok, allora torniamo a casa. Ok. Ok. Solo che si è diretta verso una stradina, si è semplicemente fermata, è scesa e ha detto, devo scendere un attimo, vieni con me. Cazzo, tu sei stato preso, tirato fuori dalla macchina, da un tizio che è sbucato dal nulla. Poi sei stato legato e non sai più un cazzo dei giorni seguenti. Ok, in che senso? Che ho dormito? Nel senso che sei stato in un bagagliaio per un giorno intero. Dopodiché sei stato trasferito in una camera vuota tipo cella. Ok, senza niente immagino con me. No, ti hanno dato semplicemente da mangiare e da bere. E poi ti hanno legato di nuovo. Cibo. Hai visto per la prima volta questo tizio con la testa gigante che ti ha detto, bene, abbiamo visto i tuoi amici, sappiamo. Vabbè, la prossima capo in PNG. no, adesso reggi il personaggio, non uscire dal personaggio, è fondamentale. Hai voluto la bicicletta? Ora ti useremo come esca. Cioè, cambio i poteri del... No. Più che altro noi potremmo non essere sicuri che sia scemo. È vero, uccidilo. ti hanno detto, ti useremo come esca, ti hanno legato e ti hanno portato in questo posto, in viaggio che è durato un'oretta, non mi ricordo più o meno. Okay. E poi eccoti lì davanti. Tu quindi sei solo legato, cioè hai solo le mani legate dietro la schiena, quindi... tutto il resto. Domanda, ho intuito in qualche modo che Ambra non era Ambra, che Ambra mi ha tradito, Beh, sicuramente ti ha tradito, poiché non fosse Ambra non ne sei sicuro. La macchina era la sua. Come ti diceva un caro amico. La macchina era la sua, sì. Spesso abusiamo. Un caro amico ti aveva visto dentro fuori, che non è vero. Vabbè, è una chiappica in tonnera, te lo dico io. No, però è la sua, cioè sono sicuro che è la sua, la conosco bene. DT499K, così adesso lo sapete tutti, potete andargliela a rubare. E aveva avvisato. Ok. Professore, la targa è quella. Ok, va bene, quindi sì, in realtà... Boh, in realtà non ho idea di che intenzioni abbiano, come neanche loro, quindi non ho un cazzo da dire. Tu sai che ti vogliono usare come esca per prenderli. Ok. Però non ho idea... cioè, l'unica cosa che ho intuito dai discorsi adesso del loro gruppo qui è che se loro tentano di scappare gli sparano, a vista. Quindi... Sì, lui l'ha detto agli altri piano, quindi ha detto... Teneteli puntati, se cercano di scappare, sparate. A quanto siamo dall'entrata della... del coso di Chauvet? In realtà un po', perché non avevate parcheggiato subito lì. Ah, ok, quindi cioè, in un turno non siamo di nuovo dentro, insomma. No. Io l'unica cosa che dico, senza urlare, senza agitarmi, lo dico tranquillamente, che mi sentano tutti i miei amici, non scappate o vi sparano a vista. Dico solo questo. O ti sparano a vista. Che sei? Sono io, coglione! Io chi? Vabbè, questo è deficiente. Cazzo, ma perché mi odi in tutti i giochi di ruolo? È costante. In Dungeon non ti sto odiando. È vero, è vero, è vero, hai ragione. Ma solo per un po'. È solo, non lo so, alla fine... No, solo che devi cambiare PG. Esatto. No, dico solo questo ad alta voce. Giusto. Perché avete deciso come procedere? Katta vi guarda e dice... Non ho idea di come agire. Di come agire, miei signori, miei signori. Va bene, secondo no? Secondo me però non hanno buone intenzioni. Quindi grazie, non so se è il caso di farci catturare. Il tuo acume è come sempre. Siete uomini del professore? Parla! Lasciate le armi, mi venite. Non abbiamo armi, porca puttana! Perfetto, meglio così. Ah, tranne questa. E si avvicinano verso di voi. Vabbè, cioè, cosa dobbiamo fare? Beth, Arci e Sheo. Io alzo le mani. Così. Okay. Tu sei l'unico che poteva fare qualcosa, tra parentesi. Ah, no, solo posso tu. Posso fare con le mani... No. Dai, io non faccio nulla, ovviamente. Chi di noi ha il libro? Katta. Cazzo. Vabbè, alzo le mani. C'è una specie di Unibis! Unibis! Ok, Giulio? Fuoco! Posso ammazzarlo io? Mi prego. Alzerò le mani. Ok. Allora, si avvicinano e quattro, tutte e quattro, e fanno per abbassare la pistola e per legarli. Scusa un attimo, quattro si avvicinano, due tengono Sheo e poi c'è lì davanti. No, uno tiene Sheo, quattro si avvicinano e poi c'è lì dietro. Sono sei allora in totale. Con Sheo sei? Sono sei. No, perché erano cinque che si avvicinano. Vabbè, facciamo quattro così non avete neanche problemi di ognuno. Un colpo a testa ci sta. Non vogliamo seguire gli avvisi o vogliamo un po' resistere? No, dipende, cioè io non... Allora, cambia un gioco. Io, vediamo tu eri in bagno, ma io ad alta voce, cioè io, ho detto non scappate altrimenti vi sparano a vista. Non scapperemo. Combatteremo! Grazie, Sheo. Ho capito, lui si stava interessando quanto è lontana la grotta, io ad alta voce ho detto questo della serie. No, no, cioè, non provate a scappare sicuro no, il discorso era o combattere o vincere, o vincerò, o vinceremo. Andiamo a provare, il problema è che Sheo rischia di morire. Cioè io non mi prendo la responsabilità di no, però non credo che sia la frase più detta. Sheo rischia di morire, però è anche vero che adesso parliamoci chiaro, ha perso una gamba. Vabbè, non c'è da riflettere, se qualcuno fa qualcosa però, io agisco anch'io, se no io non un animale non senza una gamba sofferente. Cioè di sicuro cioè lo sbatto. Beh, credo che sia una di quelle situazioni in cui in realtà non si ha tempo di mettersi d'accordo, perché no, ognuno quindi, dice per sé. Loro adesso sono questi quattro sono vicini a noi. No, l'unico può essere Giulio se spara la fiammata, dopo iniziamo a combattere. Adesso come Giulio ammazza me. Non posso agire perché sono a contatto. No, beh, sarebbe stato bellissimo se si fa. Sono appiccicate noi, Salla. Non scapperò, Sheo. No, metro, ma... Dracaris. Beh, quando tocca a noi dicelo, Che erano troppo lontani, Ora sono vicini, però. Adesso, però sono troppo vicini adesso. Beh, giuro, non va bene niente. Salla. Ma no, per voi! Dopo il loro turno, cioè loro vengono verso di noi, ma poi tocca a noi. Beh, io tanto ho rigenerazione, va bene, puoi sparare. Il primo a cui tocca è Katta. Che vedete che appena il tizio si avvicina, mi fa così sulla testa, e vedete la testa del tizio che esplode. Ah. Sì, su Katta mi ha fatto un cazzo delle puntate. Ma che cazzo adesso, è? Adesso è diventato... Oddio, non è... Cioè... No, ma in che senso? In che senso che ha ucciso il tizio davanti a sé, quindi siamo in combattimento. Non puoi toccarci, grazie scemo. Ok, io da così, Salla, da con le mani alzate come mi vedono, improvvisamente faccio, non mi vedi più, vedi, non mi vedi più, mi vedi più, mi vedi, no, non mi vedono. Tutti e tutti. Solo a quello davanti. No, ad area, io adesso ce l'ho ad area. Quindi il tizio che tiene Sceo e il tizio alla testona ti vedono. Beh, dipende da quanti metri sono. A ventina. Quanto è ad area? Mi vede. Ti vedono? Va bene, sì, è tipo 8 okay. metri. Quindi anche io lo vedo. Ok, ok, ci sta. Sì. Io e però io posso usare il potere e poi abbassarmi sul posto. Sì, sì, puoi farlo. Tipo sì, faccio sì. E poi mi abbasso proprio. Puoi anche farlo e muoverti. Ah, sì? Il movimento, azione e movimento. Io attivo i miei. Allora lo faccio e vado dietro al gruppo, ai quattro. Va bene. Ok, nessuno di voi, tranne Sceo, vede Arci. Ok. Io mi dice esattamente fisicamente come sono legato adesso. Tu hai semplicemente uno di quei laccetti di plastica. Ok. Quindi sono le mani, sono le gambe. Ha le mani dietro la schiena, sì. Le gambe sono libere, sono in piedi. Esatto. Il tizio accanto a me è armato, deduco. Il tizio accanto a te è armato, il tizio invece con la katana e col testone è un po' più lontano. Ed è armato anche lui, oltre alla katana intendo armi da fuoco? No, ha solo la katana. Ok, il tizio accanto a me ha l'arma impugnata, puntata, non so. No, c'è la pistola ma non te la sta puntando, ce l'ha attaccata al corpo. Posso fare una mossa alla film d'azione, tipo tish, tish, e lo disarmo, una roba... Tipo mi giro e gli caccio un pugno in testa tentando di... Ma è legato? Sì, sarebbe stato veramente figo se avessi attivato il potere prima, però ok. Vabbè, non capivo la storia. Cioè, io pensavo che sarebbe finita con loro che si avvicinavano. Ok, seguiamo. L'operazione è il prossimo round, altrimenti lo fai senza potere. Ah, ma tu dici potere. Ah, no, cioè. Ma è... Che tipo. Che senso è il potere? Hai solo poteri che realtà. Cioè, per il corpo a corpo. Sì, però con le armi da mischia. Usa la toglia, staccati la gamba e colpisce con quelli. Scusa? Anche mira a fare un mirato e attivazione. Potere di Sceo qual è quello super legato? Adesso io volevo tirargli un gran io volevo guai. Provare o a rubargli la pistola o comunque a fargli a fermarlo. Ah, sì, sì, però non puoi usare il potere oppure lo usi come reazione per un round solo. Ma il potere. Ah, cioè per fargli un pugno mirato in quel senso, tu dicevi. Esatto. Ah, ok. No, ma il mio intento è più tentare di disarmarlo barra rubargli l'arma che. Stenderlo, cioè voglio distrarlo in qualche modo o stordirlo un minimo per prendergli l'arma. O addirittura, non so, dimmi tu, in base a come è messo fisicamente, non tentare direttamente di prendergli l'arma. È possibile da come fuoco, sono messo? In energia. Ah, sì, fuoco, sì, in caso. Aspetta. Dico. Vuoi prenderla rompendo i tuoi lacci? O... Beh, così, cioè non penso di riuscirci. Ah. Dovrei provare a fare una prova di fisico per le due che altro per combatterlo, cioè delle due tanto la pistola la riesco a usare con le mani vicine, no? Quindi se prendo la pistola dopo la posso usare. Hai ragione. Allora sì, devo provarci per forza. Ci posso provare, ma la vedo impossibile. Puoi provare, sì, e ti dico che la difficoltà è 4 e diventa 5 perché se provi nello stesso round a disarmarlo ti do un più 1. Ok, una cosa psiche, voi come siete messi? Io ho 5 su 6. Sto come d'autunno sugli alberi. Anch'io ho 5 su 6, non so in questi giorni, in questo periodo. Tu sei full, Sceo. Cioè sono a posto. Per attivare il potere è un'azione, giusto? Quindi full di ferite, sei full di quindi... psiche, sei full. Scusa, se ne... non mi ricordo se la psiche parte da 1 o parte da 6, scusami. Da 6. Ok, parte da 6, allora sì, vabbè, sono full. Comunque, e posso spendere un punto psiche per provare sì. a liberarlo? Cioè. Sì, sì, sì. Quindi come funzionava? Aggiungi il numero di psiche. Ok. 6, vaffanculo, più 6, 12, vaffanculo, ho fatto secondo. Sì. Perché ho sprecato tutto psiche. Beh, non l'ho sprecato. Ho sprecato, non sapevo di fare uno. Sì, sì, infatti. Magari se e provo, no, ho detto difficoltà, sì, sì. E provo a disarmarmi. Ah, disarmarlo, scusa, disarmarmi, non è prova a disarmarlo. E ce la faccio? Cioè, rubargli la pistola. Non so, se secondo te è fattibile che gli prendo proprio no, la pistola, no, ok. No, non è fattibile, però puoi entrare in lotta con lui. Allora, se no, domanda... Opzione alternativa, entrare in lotta con lui. Gli do un calcio per disarmarlo. Gli do un calcio alla mano in cui tiene la pistola. Bello. Sì, però devi fare un mirato, quindi la difficoltà è parecchio alta. Calcio mirato alla mano. T- Tipo, cosa hai appena fatto con quel... Per liberarmi. Ah. Ho spaccato le cose di palla. Ah, ti dico, secondo me hai due possibilità. O entrare in lotta con lui, ovvio. Potere con una reazione. E aspettare. E però mi spara. No, cioè con la reazione tiri un potere, con l'azione dai un calcio mirato. Oppure entri in lotta con lui. Capito. Sì, forse ha senso. Vabbè, però attivare il potere... Cioè, il mio intento è prendergli la pistola. Se non gli prendo la pistola, attivare il potere o no non è che cambia tanto. In realtà. Non scambia tanto. E come ti pare, Shiro? Come finisci? Cioè, se vuoi dargli un calcio alla pistola, devi fare un mirato. Vabbè, se intanto vuoi pensarci, faccio io. No, vabbè, entro in lotta con lui, dai. Ok, tira fisico. 3. Ok. Vedi che lui ti spintona via e non riesci a agguantarlo. Zitto. Tocca a Elf. Oh, io attivo il mio potere, quindi sono 3 cloni, e gli dico bloccare gli altri, cioè le guardie. Ok, sono 3, le guardie sono 3. E abbiamo una guardia, se vanno in 3 su una guardia hanno qualche vantaggio. Certo. Non lo so, a termini di gioco. No. No? È uguale. Sì. È uguale nel senso che però tutte e 3 erano visi, ma la stessa. Cioè non hanno un vantaggio al tiro di dado, però. Va bene. E disarmate quella guardia. Però Sala se non la prende in lotta e gli altri danno una mano ha dei bonus. Sì, in quel caso sì. Cioè se aiuta la nazione sì. Esatto. Si aiutano tra di loro. Però se attaccano tutti e 3 separatamente. Cioè, domanda, se lui gli dice semplicemente disarmatelo, hanno l'intelligenza di tipo uno lo tiene fermo. No, perché conta che sono dei ruoli diversi. Questo è va bene. Cioè, hanno lo fanno il prossimo turno, però, mi sa. O adesso? Lo fanno il prossimo turno, ma devi tirarmi adesso. Ma hanno l'intelligenza di arrangiarsi sul come fermare una guardia, o devi dire esattamente cosa fare? Un 6, un 3 e un 1. Non sono degli scimpanzé. Ok. E vabbè, poi il resto basta, non posso fare altro. Disarmano magari tutti e tre, io cerco di muovermi in modo di essere dietro di loro rispetto alle guardie, ma tanto sono so che non cambierà. Sì. Okay. Giulio, vicino a te c'è una guardia, vicino ci sono tutti gli altri, di cui 4 Beth, Arcino, sai dove sia, e 3 guardie. Riesco a sparare beccando le guardie. Sì, però non sai dove Arci e non sai e un paio di cloni di Vezza li becchi. Vai. Se vuoi prendere tutte e 3 le guardie. Se vuoi prenderne tipo 2. Ne prendo 2? Diciamo quelle due vicine. La mia è quella di Arci. Ah, va bene. Uccidi anche lei. Sì, va bene. Cloni. Tanto... Arci, dove ti sei mosso tu? Nelle fiamme. No, dietro le guardie. No, io sono ora. In teoria mi sono immaginato così la scena. 3 guardie e 3 davanti. Ok, no. Il testone non ho capito bene dove sia in sto bordello. Molto indietro. Ok, io sono andato semplicemente dietro alle guardie. Giulio, dai fuoco ad Arci, tira. Che bello, in mezzo alle fiamme. 7. No, 7 per 0,5 è per quanto si propaga. Quindi è 3 metri e mezzo. È un cono lungo il 3 metri e mezzo. Scusa, di quanto ti muovi tu, Arci? Io non so, sei un cattivo movimento, 6 metri? 6 metri. Quindi è fuori, in teoria. In realtà dipende come spara il cono, cioè... Sei andato oltre le guardie di 6 metri? Sì, però era tipo a 1 metro dalle guardie, non so se gli è passato intorno... Beh, per forza, non è che sono sopra. Appunto, quindi se tu sei a 1 metro da qui, fai anche solo un metro... Cioè... Sei al limite, capito? Cosa aspetta. Vuol dire lui? Beh, dipende, adesso dipende. Aspetta. 6 metri non sono pochi, Esatto. Cioè, se io devo passare da qua e andare qua dietro da sì, me... secondo me è tipo 1,5 metri, 2 fuori dal cono. A livello di gioco lui gli può anche passare in mezzo. Ah sì? Non lo so. No, non in mezzo al corpo, però in mezzo alle guardie, sì. Certo, sì. Ah sì? E non sta a loro. In termine di gioco, sì. In termine di senso, no. No, io pensavo di dover comunque circumnavigarli perché c'erano i quadretti occupati. In termine di senso, e ci sta di considerarlo come senso, secondo me, tu li accerchieresti, ovviamente, no? Perché è ovvio che... anche se sai di essere invisibile, dipende, se sono tipo a 2 metri l'uno dall'altro, che non so, si sono messi larghi. Beh, sono come eravamo noi, noi eravamo di fianco all'altro. No, sì, se la distanza però è questa, io non cerco. In termini di gioco, sì, sì, probabilmente sì, lui ci può passare in mezzo. Certo. Per, però... per quanto sia invisibile, non può passargli attraverso. No, attraverso quindi... al corpo no. Però diciamo che non c'è l'attacco di opportunità. No, però se c'è lui in mezzo... Facciamo una percentuale. Se gli passa di fianco, nel senso... Tra due guardie c'è lo spazio per passare, quello diceva. Beh, vabbè. Comunque lui non ci ha pensato. No, ma comunque no, se lo spazio era stretto, è ovvio che non cerco di passarci in mezzo, rischio di dare 2 spallate alle guardie che poi sono dove sono. C'è il 60% che tu sei davanti. Quindi 0,60 becco anche Arci. No, l'unica cosa è che effettivamente se passa le guardie, tu dove vuoi andare? A colpire le guardie dietro volevi? Cosa devi fare? Dietro le guardie? Ma nel senso che le volevi colpire? 84! Bravo Giulio! Ma nel senso che vuoi colpire le guardie o andare verso il testone? Non c'è le guardie. Ah, ok, posso. Cioè, non lo so, devo ancora decidere perché non sembra verso il testone. No, no, perché per esempio, se tu lui si è messo l'altro andare verso il testone, dubito che cioè facevi che tipo che il testone mi vede, capito? Lui si è tolto per evitare eventuali proiettili. Ciò che ho intuito bene. Ma è ad area, no? Sì. Se allora cominciano se arrivi nell'area del testone, te c'è tu. Io becco tra se ho intuito la tua mossa, se loro cominciano a sparare dove pensano che tu sia, non ci sei più. Esatto, è vero, di abbassarmi, però mi hai detto infatti, che devo spostare, vado via. Va bene, vai. Io becco 3 locazioni. E quanti dei miei cloni prende? Nessuno. Perché non becco anche quello. Sì, anche perché loro non sono mossi in realtà. Giù c'è che ha deciso solo me, è andata male. Allora, il primo gli becco 8... Salve, gamba sinistra. Il fatto che Giulio abbia detto ammazzalo riferito a Sceo, che ora cerchi di bruciare il me. Il braccio sinistro. No, conta come una specie di nemico. E ha detto che non uccide i cloni di Vespa, che sono solo cloni ed è una perdita di tempo, vuole l'originale. Ha avuto anche senso stavolta. Sì. Paradossalmente. Braccio sinistro, gamba sinistra e busto, e gli faccio... Ah sì, perché tu dici gamba sinistra, braccio esatto, destro, tipo immagina te, no, che però funziona un po' così. I danni vabbè, tanto, una sola volta. L'abbiamo criticato 1000 volte sta cosa. Tipo il piede, la testa. Tipo il piede, la testa, ma non il torso. 120. Ok. Danni? A cosa? A queste le 3 locazioni che ho colpito. Al lato sinistro del corpo, in sostanza. Quindi gli seghi una gamba e il braccio. Il braccio sinistro. Sì. Seghi un po' un pallone, però glielo brucia. Beh, penso che... Beh, la gamba. Alla seconda guardia, sì, beh. Se non hanno cose speciali, se non hanno cose speciali le ha perse. E ne so, qualcosa. Se era mancino, no, con la tua pista. Bisogna andare in negativo di tutto il ancora tutto. Il busto, quindi mi sa che se becco 2 volte la stessa, sì, vale solo uno. Si stai per terra, quello, secondo me. E, no, vale su quella adiacente, mi sa. Ah sì, non so. E il braccio sinistro. Era mancino ste guardie. E faccio... Spazza la mia testa. Non c'erano mancini. Solo 20 danni. Non c'erano mancini. Peccato. Che sfiga. Questo a 1. Al secondo ho fatto solo 20 danni. Sono 2 guardie, beccato. Sì. Sono 3. Ok. Però sono lì che fanno tipo... brucia! Chi? Giulio? No, li guardi. Non hai frequenza migliorata? Io ho frequenza migliorata. Ci sta. Io... Tocca alle guardie. Allora, quella di Sceo cerca di dare un colpo con la pistola in faccia a Sceo. Schivare la spara, Salla. Fa culo. La pistola spara. Ma è più facile ucciderlo. Cioè, più lento lo ammazzi più lentamente. Esatto. Posso provare a schivare? Può parare. Para con la testa. Posso parare con la gamba destra. E una cosa, io mi sa che come condizione c'ho ancora distratto. No, prova a schivare. No, non c'è. No? Provo a schivare. Però hai punti fatica, sì. Sì. Provo a schivare. 5. Schivato. Oh. Mi chiamano Nio. Sì. Dopodiché, allora, Katana spara a uno dei bet. Sì. Schiva. Siete in 4? No. Ah, o schivo. Siete in 4, se faccio 1 colpisco te. Anzi, tiratelo tu, un di 4. Se fai 1 colpisci te. 1! Prova a schivare. Prova a schivare. E psiche, te schivare. Puoi fare, sì. cosa succede? Devo fare un T6 più aggiungo che è 6. Posso tirare un D8? Perché? Basket. Come dodgeball. Spara la testa. Sì, ma non schivano i proiettili. Non so che cazzo di allenatore hai. 2 più 6, 8. Se sa schivare una chiave inglese, se schivare una palla. Tirato, togli il punto stile. E poi. Allora, devo controllare una roba veloce. Però uno spara sicuramente su Giulio. Perché non ha più acido. Cazzo, non devo uccidermi quello che non rispetta i miei ordini. Giusto. Tu, avete visto cosa succede? A non pedirmi. E io però posso farne altri tre. Io sono sempre adesso un metro e mezzo, vero? Scusa, in tutto questo. Sì. Quindi non sono... schivo, sparo niente. Schivo. Quindi è abbastanza facile per me schivare i proiettili. Se sparo un'altezza uomo, io sono sano. Appena Arce sposta il braccio, ti tiro il danno. Vai, vai, vai, sul braccio, tira pure. Uso psiche. Ok. 11. Schivato. Io. Devo tirare anche la psiche. Sì. Mentre. Dipende quanta psiche hai. 4. Immagini anche quel tizio con la katana di riassurdo, come verrebbe. 10. Non può, non più del massimale del dado cimitero. Ok, quello che brucia sta bruciando e cercando di spegnersi allo stesso tempo. Spero. Però è a terra. Però lo spengo io. No, però secondo me io... Vedete che Katta si sta tenendo la testa e si guarda intorno smarrito. Arcibez è scemo. Io a questo punto provo... Basta, stare zitto perché tocca a me. Va bene. Io colpisco col coltello. Sì. Anzi, scusa, allontanati dalle fiamme, ora non vorrei dire. Mi tuffo nelle fiamme? No, la terza guardia è rimasta, cioè una mezza sbruciacchiata, una che è a terra e poi c'è quell'altra che ha sparato, no? Ah, quella sbruciacchiata si è un po' spostata via dalle fiamme, quell'altra si è semplicemente spostata, okay. Dal cono. Il cono però è ancora attivo. Sì, dura 6 secondi. Allora sai cosa faccio io? 6 round. Io tiro una spallata e lo sbuto dentro. Yeah. Anche se porta bene, non ha dei punteggi in più. Sì, ho di 8. Al di 8 di bodybuilding. Ho anche la cosa. No, perché è invisibile. Io intendevo il fatto che lui Salla si è preso tipo un po' di sprovvista. Non può schivare, cioè, no, nel senso, non lo sbilancio meglio perché non sa da che c'è. Sì, capito, non può schivare. È già buono. 8. Ok, lo spinge nel fiamme e quindi si cade addosso a Giulio direttamente. Proprio così forte che esce. Si prende un danno a una locazione. Quindi tiro il dado, il danno. La locazione e il danno. Locazione 6. Sempre il braccio sinistro. Ottimo. Ottimo. Okay. Danni. 140. Ok, l'hai spinto e lui è arrivato con l'altro braccio, però sì. Sinistra, è scemo. Io provo a rubargli la pistola. Non so. Ah, va bene, gli tiro un calcio. Rimai in lotta con lui. Che cazzo. Ma in che senso in lotta? Cioè, spiegami esattamente. In lotta ti attacchi tipo isso. E quindi in termini di gioco è un tiro contrapposto. È una prova di fisico, sì. Sta calmato. Allora. No, comunque io ne ho solo 2 di cloni, non 3. Provo a tirargli un calcio alla pistola. Vedete un clone di Metz che improvvisamente si scioglie. Beh, ritiro i dadi di controllo, magari. Vabbè, no, prova. Non ha fatto uno. Prova a disarmarlo con un colpo, semplicemente. Un calcio. Io non dovrei essere questo. Provi a disarmarlo con... Che palle questo disarmare. Vabbè, fai questo miracolo. Tipo con... sì, esatto. Però senza potere, perché prima non l'ho attivato. La difficoltà è 7. Ah, ok. Fantastico. Allora vado in lotta, posso andare in lotta e attivare il potere come reazione? Sì, però se lo attivi come reazione dura solo un round e si spegne quindi il round successivo. In che senso? Scusami. Nel senso che... Che dura per l'azione che fai. Dura per quell'azione lì. Ah. Cioè non è... come reazione serve per usarlo in quell'azione. E quindi se lo attivi come reazione dura un round. Quindi per attivarlo dovrei usare la mia azione, punto. per attivarlo, attivarlo dovresti usare la tua azione, esatto. E quindi non poter fare altro nel turno, in sostanza. Puoi muoverti. Solo muovermi. Solo che rischio che mi spari. Le regole sono queste. Come reazione cosa posso fare? Per scaccolarti. Niente. Certo, ma sei un super soldato, prendi un sasso e usa... ma non ci sarà un cazzo nel livello 1. C'è qualcosa? Scusa, prendigli qualcosa, non riesci a prendergli, tipo, avrà qualcosa, un coltello lì, prendigli un coltello e infilagli. Ho qualcosa io o ha qualcosa lui che può essere utile? Ma niente, lui sì. Ma spendi 46 punti di esperienza che hai. Lui cos'ha? Ha una pistola in mano. Oltre alla pistola. Alla cintura, alla cintura qualcosa. Può darsi che tu veda un coltello, ma non è che sei io e glielo puoi sfidare. Ci posso provare. Sì, ma è sempre una prova di lotta. Minchia! Non può farlo tipo destrezza. Cavagli un occhio. Ma tra l'altro neanche adesso in D&D puoi farlo più. Vabbè, che tanto non ti cambia niente lato pratico. È meccanicissimo. Sempre un D6. Fai con Super Mira, cavai un occhio, tipo... Però devo attivarlo la Super Mira. Vabbè, sempre. No, però una ditata, in effetti negli occhi la potessi fare. È un colpo mirato. Sì. Difficoltà 7. Fallo. Quanto hai di psiche? 5. Attiva il potere come reazione. Fai sto cazzo di psiche, fagli un colpo negli occhi e cerca. Quindi posso farlo già in questo turno, se lo attivo come reazione, poi si spegnerà e non è... Sì. Esatto. Ah, ok, vabbè, allora sì, faccio così. Va bene. Fai il super soldato, cazzo. Eh? Fai il super soldato. Quindi gli faccio... Boh, che cazzo gli faccio? Non lo so, in realtà... Boh. Perché i tuoi turni durano 10 minuti? Sì, è vero, hai ragione. Oggi sono un po' lento. Gli do... Togli un punto fatica. Per? Per aver attivato il potere. Ok. Ok. E poi niente, è super mira. Ok. Però aspetta, io ho frequenza migliorata. È un danno da... Cioè, un pugno quanti danni fa, che non mi ricordo. Un semplice. 44. Allora, sì. Sì, gli do... Hai un pugno mirato al braccio che tiene l'arma. Sì, era quello che pensavo. Un calcio, pensavo. Vabbè, sì, uguale. Vabbè. È indifferente? Sì. Ok. Un potere scelto per 10. Viene attivato. Colpito. Ok, quindi tiro un di 4. Ma la gamba destra non mi dà dei più, chiedo. La mia bionica. No. La ringrazio che non ti dia dei meno. 4, quindi 40. Senza frequenza 40. Migliorata... Si prende fatica. Okay. Se lo attivi prima che sia passato un turno. Quindi si rispegne il potere. Scusa, qui dice: quando il potere scelto per questo potenziamento viene attivato, sarà poi necessario attendere un round per attivarlo nuovamente oppure si accumulerà un PF. Sì. Di solito se attivi il potere, che non è passato un tot di tempo, prendi un punto fatica. Con frequenza migliorata basta solo che un round. Ok, posto. Sta bene? Allora, io, i due cloni vanno sul tizio, che hanno davanti, tiro, fisico. Cioè, devi dirmi cosa fanno però. Fisico, provano a immobilizzarlo. Ok. Uno fa 4 e l'altro fa 2. La uno viene buttato via, ma l'altro lo aiuta da dietro e lo riesce a bloccare. Io posso prendergli la pistola. Sì, fa una prova di riflessi. Una prova di riflessi. Perché io no e lui sì? Anche l'altro è bloccato. Uno. Spari non riesci a prenderla. Non posso fare altro, questa è la mia azione, giusto? Puoi muoverti. Però lui è bloccato in questo momento. Vabbè... E puoi dare anche un altro comando all'altro clone, volendo. Sì, gli dico, prendigli la pistola e poi al retro sulla linea di Giulio, per non essere ucciso dalle fiamme. Tiro? Sì. Come per tiro? Il comando. Ah, scusa. 3. Ok. Vedere se le fiamme ti beccano acceso. Scemo. Sì. Il tizio non ha più la pistola in mano, ma può darti un pugno. Certo. E lo fa. Trapassando il cranio. Sì, mi turno 3. Ma non ha usato la sua reazione per attivare il potere. Ah, sì, hai ragione. Infatti, non posso attivare. Tizio dentro. Sì. No, è il turno 9. Dove l'hai delle tue fiamme? Ah, ok. Tizio ci scompare. Il tizio è uscito dalle fiamme, io ti ho una spallata del buco. Ho fatto 3. 3. Non so se ricaricano al proprio turno o all'inizio del turno. Non lo so. E ora mi sa che vado ad affrontare il katana. So. Ma all'inizio del turno. Sì. Non ci riesco a sopravvivere. Vabbè, tanto non schivo, penso che il problema non si ponga. Vabbè, la morale che ti ha colpito. Sì. Ti colpisce con un pugno a sinistro e senti che ha qualcosa di molto duro su una mano. Tipo, e ti colpisce tipo, al 5. Braccio destro, tipo un tirapugni? Sì. Peggio. E ti fa solo 10 danni, però. Con un tirapugni, sul serio. La cosa di credere sul braccio destro. Ti ha colpito di striscio. Sì, esatto. Tipo, così. Vale, ok, allora. Lasci tutto l'invisibile se ti attacchi qualcuno. Io non ho attaccato nessuno, ti ho dato una spallata. Qual è il tuo difetto? Ma non nella vita vera, ma in questo gioco. Ah, sulla persona molto umile. Difetto di anonimità. Non nella vita reale, ti ho detto. Scherzando. Difetto. Nessuno. Incapacitante. Sì. Devi rinunciare a qualcosa. Rinuncio. Ah, quindi non potevi muoverti il primo turno? No, no. No, no, poteva muoversi. No, il primo turno sì. Ah, però sì. Però questo qua io cosa ho fatto? Io ho fatto solo un'azione di fatto e fine, non ho fatto niente. Quindi sì, posso no, rinunciare. No, non c'è problema, non spara a te perché non ti vede. Spara comunque a Giulio. Sì, comunque gli ho fatto solo una spinta, quindi devo rinunciare al movimento. Sì. Sei quello che t'affonga le persone. Ma questo qui non ha appena avuto un braccio carbonizzato, mi spara. Cioè non può il sinistro. Spara braccio. Con l'altro. Il sinistro. Fa culo. Dove decidere l'altro braccio, stronzo. Schiva, Giulio. Schivo. So. Paro. Col fuoco può pararlo. Beh, sarà più scottante quando lo colpirà. Ha riuso di nuovo la psiche. Ok. Hai fatto bene a usare la psiche. Sì. Ho colpito Archibald lo stesso. Sì, è grosso. Vabbè, 5. No, 5. Schivato. Uno dai. È schivato. Di poco, 6. Io prima non l'ho fatta la prova di psiche. Anch'io. Psiche hai, Beth? Adesso ne ho 5, prima ero a full. Vabbè, allora. Anche io non l'ho fatta comunque. Adesso sì. Era come te. Vabbè. Ma tu quanti ne hai, scusami? 5, ah ok, posso. Come te. Hai fatto 5, Giulio? Sì. No, 6. 6? Alla prova vabbè, di... 6 è la prova di psiche, 5 allo schivare. Sotto stress. Perché già i disturbi da sonno medio. Disturbi da sonno? Sì. Vabbè, se ti resta proprio di psiche, il tic di disturbo. Prima avevo 6, ora ne ho 5. No, ma l'ho dato una volta. In gioco, però come disturbo mentale, disturbo da sonno medio. 4 più cosa devo fare? Quella che avevo prima o quella che avevo dopo? Quella che hai dopo. 9 allora. Sure. Faccio anch'io. 11. Ok, allora il tizio bloccato dai tuoi cloni prova a liberarsi, prova di fisico. 4. Boom! Ok, rimane immobilizzato. Boom! Fortissimo. Clone potente, tu rimarrai con me. E poi scompare. Adesso lo sparo, gli sbulo da dietro. Esatto, provabile. Sarebbe figo vedere però quello con la katana dei capita un Vez. Ma quindi Katta cosa ha fatto? È lì che gira stranito? No, non ho capito. Sì, è tipo mezzo... Sì, Katta gira stranito. Sì, non ha capito che lo stia usando. Sì. Presente già un'altra volta la GIF. Katta è così. Sì. Due. Bellissimo. Ci sta tutto. Colpito la testa. Punto fatica. Devo fare una prova fatica? Colpito la testa? Vedete che il clone di Sheo Come? Si blocca quello che ha provato a disarmare. Non ho mai avuto cloni, cioè, io a attaccare. Vedete il clone di Shiro che si blocca. Non ho cloni io, smettila. Il clone di me si blocca, cioè, vedete, tipo il rigolino di sangue e la testa che cade. Sì, l'ha decapitato. L'avevo detto. Una spada. Ah, quello con la katana. Non lo so, non vedi nessuna spada. Tocca. No, e devo fare la prova di fatica io. Sì, per la... no, sì. Prendi un punto fatica e tira la fatica. Cos'è? Un D6 sempre. Uno. Svengo. Uno su. Povero Ned. Ho 7 punti fatica con questo. Eh beh, sai, dopo il se combatto dopo un combattimento, di solito. Muoio. Che sala ride. Mezzo sviene. Poi posto. Il mio clone scompare. No. Tocca a Archimedes e Shiro. Io sono svenuto. Quindi ciao. C'è una guardia che ha sparato a Giulio, che è però ancora lì in mezzo alle fiamme, in teoria, no? Ah, c'è una guardia che sta rotolando in... per terra. Diciamo. Una guardia che ha sparato a Giulio, che vabbè, si è spostato un attimino dalle fiamme, non è rimasta lì. Quindi, secondo round... Dove vai? Torna lì dentro. Una guardia bloccata a terra. E poi c'è una guardia che sta pestando Shiro lontano. E il tizio con la katana è scomparso? Sta pestando Shiro, dici da. Non si vede in visuale? No. Però è probabile che vedete la tua testa a un clone di Vez. O sì. Le teste cadono da sole. E io non lo vedo, giusto? No. Posso fare una prova tipo di ascoltare? Puoi fare una prova di ascoltarsi. Beh, in mezzo a quel casino, però. Beh, ho capito, faccio una prova, non vedo che ci riesco. 4. Ah, diciamo che non fai una prova di ascoltare, ti concentri per vedere se riesci a notare, distinguere qualcosa nell'ambiente. E vedi una sorta di riflesso vicino al clone di Vez. Ma un riflesso con una sagoma umana? No, un riflesso tipo una lama. No, però solo un attimo. Quando si finisce un combattimento, non si recuperano dei punti fatica? Non è Star Wars. Vabbè. Vabbè, raga, è una vita che non ci gioco, non mi ricordo. No, vabbè, io tiro una spallata al tizio che è appena uscito dalle fiamme e lo rimetto dentro. Tira su, fisico. 8. Cioè, Giulio, sei calmo, cioè. Giulio solito 7 gamba destra. Oh, abbiamo cambiato. 160. Ok, il tizio comincia a bruciare la gamba destra, ma anche il busto prende fuoco e cade a terra. Bezzo show. Grande tecnica. Io riesco a prendere la pistola. Sì. Prendo la pistola e riesco. Posso tentare di sparargli a questo punto. Puoi tentare di sparare. Se è svenuto è tipo da qui fino a sì, ci provo. C'è un modo per... Senza attivare nessun tipo di potere, gli sparo e basta. Ah, te la provo così subito. Giusto. Va, dipende. 5. Si proverà a schivare. Immagini. E se lo piglia, tira l'occasione. 2, quindi busto. 7, quanti danni fa questa arma? Sono di 6 per 20. 60. Perfetto. 60 danni al busto. Però c'è, cioè, busto ma proprio cuore, capisci? Cioè, busto ma sì, sì, preso bene. Sì, avevate visto i giubbotti che comunque indossano. Sì, quindi il busto è proprio quello che non fa un cazzo. Sì, No, cioè hai fatto dei danni, ma non tanti. È cioè l'unica locazione in cui faccio sicuro meno danni, in sostanza, ma va bene. Dovresti usare la lanciafiamme. Solo che, cioè, finché sono addosso a lui non posso attivare. È un po' una bega il fatto che lo devo attivare perdendo un'azione, perché... Terribile, in fondo puoi solo asciuttare la gente. No, nel senso cioè dovrei perdere un turno. Sto cercando di capire. Capito? Se cosa potevo fare. Cioè io per attivare il potere devo perdere un turno, di fatto. Ah, certo. Aspetta, il mio clone può fare qualcosa? Sì. Cioè, a differenza degli altri. Sta tenendo bloccata una persona. Ah, ok, posto. Il fatto è che non è una lamentela. Dico solo. Cioè, gli altri poteri sono immediati. Il mio è una bega perché devo attivarlo. Aspettare. No, dovete risvegliarmi. Beh, se mi volete di nuovo in combattimento, se no rimango lì. Vezza è vicino a svenuto vicino al tizio, alla guardia. Sono vicino a te io. Sì, è vicino alla guardia. Perché ha provato a disarmarlo. No, ma sì, poi è vero. No, poi sì, mi sei di fianco. Sì, è vero, è vero, è vero. No, dopo, aspetta. No, no, no. Ah, sei arretrato vicino a Giulio. Sì, sì, sei arretrato di fianco a Giulio. No. Ah, sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. No, quando è morto l'altro sono svenuto. Sì. Allora, fiamme dove c'è la guardia. Dove c'è Mezzo. No, che è vicino a me. Cos'era per la posizione? Sì, no, lì. Avrebbe fatto ridere. Quindi guardi, dove c'è la guardia. Svegliati, cane. Dove c'è anche il suo clone. Devi fare un'azione. Devi fare un'azione. Uno per svegliarmi, deve fare un'azione per svegliarmi. Ok. Se no, mi lasciate lì. Direi danni. Il clone di Beth esplode. La guardia viene beccata. Io prendo un altro punto fatica. Devo fare una la prova. Gamba destra, non credo di averlo beccato. No. Posso andare in coma? No, sei già svenuto. Gamba destra, testa, il braccio sinistro, ne faccio 140 danni. Ok. Magari il mio clone sopravvive. A testa 140 danni comincia a prendere fuoco? Cioè, la testa esplode, poi il resto comincia a prendere fuoco. Sono come danni da fuoco. È tipo così che guarda. È tipo un video musicale di E vedi che dice in teoria, no, di in teoria quella guardia era esattamente accanto al riflesso che Arce aveva visto. Io per quello ho sparato, però tocca a non succede altro. Quindi hai matato due guardie. No, no. Una guardia a terra bruciata, un'altra a terra molto bruciata e una è morta proprio bruciatissima. Scusa, cos'è? Non è beccato che lo manca. Non credo. C'è la guardia vicino a te? Io ho sparato. Ok, poi c'erano i cloni diversi in cui uno era appena stato segato. Ah, provo a schivare. 5. Capito? Quello con la katana è un altro. Vediamo quanti danni fa. Quello con la testa enorme. Ok, busto. Che è scomparso. Io non lo vedo. 20. È fortissimo. Tira dei pugni da paura proprio. È un tirapugni. Appunto, ma in teoria non dovrebbe fare più danni di un pugno normale. Ma non ti lamentare che fa basso. Scusa. No, no, no. Se faccio due colpi. Ci ho legato. No, no, mi sono liberato. Pah, ho rotto. Allora magari riesco comunque a lanciarlo nelle fiamme. Sono 20 metri a distanza. Potremmo prendere Sceo e dire vieni fuori se non vuoi che lo uccidiamo. Ok. Arci, Vez, no, e Sceo. Salla, vedo ancora io con riflessino. No, non è più lì. Posso fare una prova per vedere se riesco a ribeccare quel riflessino in giro o no? Sì. Allora, se mi dica se Giulio riesce a... 2. Non lo vedi più. Quindi in giro cosa c'è? Le tre guardie moribonde. Ci sono tre guardie che stanno rotolando. C'è Vez svenuto. Più lontano ci sono Sceo e il tizio che si è tuffato. Con un'azione potresti. Io nel frattempo, se posso, visto che è in contemporanea, posso dirlo così magari lui vede cosa sto facendo io e decide. Sì, puoi farlo. Io gli punto la pistola alla testa senza sparare, nel frattempo attivo il mio potere. Sei da contatto, sì. Gli punto la pistola in faccia e gli dico fermo dove sei. E intanto attivo il potere. Ok. Io sveglio Vez. Va bene. La soddisfazione di prendere la schiaffa. Però devi rinunciare alla reazione. Perché? Fai un movimento per arrivare da me e un... Poi eri vicino. Non lo so, quanto sono la distanza da Vez in realtà? Allora, devi muoverti, andare da Vez e fare un'azione per svegliare. Quindi non so se conta come azione cercare di percepire. Sì, però devi rinunciare alla reazione, credo, giusto, Salla? Sì, rinuncia alla reazione. Allora si usa l'abilità di urbanismo, è un'azione, però a me sembra abbastanza assurdo, quindi vediamo. Okay. In questo caso no. Scusa un attimo, quindi vado lì, sveglio Vez, perché devi rinunciare alla reazione? Perché è un'azione lo svegliarmi. Perché se rimani anonimo... devi rinunciare a una. Ah, per la divinità. È il tuo difetto. Ah, sì. Ok, per la divinità, ok. Allora sì, rimango invisibile. E... cioè, in realtà penso tu è incapacitante. Sì. In realtà penso sia molto più grave di così. Però vabbè. E guardaci. No, forse no, a livello basso no. Va bene. Sveglio Vez e... e rimango invisibile. Agli occhi. Perfetto. E ricordati che hai fatto anonimità solo per... l'area. No, non è l'area, è intorno a me. Sì. Cioè, se io mi sposto, chiunque entra nella mia area non mi vede. Quindi... no. Eh sì. È l'area di attivazione iniziale. No? No, no. Sì. Sei sicuro? Vabbè. Sì, sono sicuro. La cosa divertente è che tu svegli Vez, sembra strana come la cosa svegliata. Eh no, mi sembra giusta, cioè castigo Gella l'abilità. Ma è se stesso, forse ecco perché non lo trovo, perché ho scritto inapacitante. Sì, però. Ecco. Minimo la sua candidazione cambierà incapacitato. È un cazzo di esempio. L'avversario è a distanza, quindi tu lo casti a distanza e nell'area rimane in quell'area, cioè chi è in quell'area lì quando lo casti. Ma di quant'è l'area? Ah, allora io non... ah no, aspetta, allora io non devo farlo partire su di me. No, però lui era comunque a 20 metri. Il tizio con la lama era comunque troppo lontano in ogni caso. Ma quanto è grande quest'area? Vabbè, però no, aspetta, però cambiano le cose, perché vuol dire... quindi vuol dire che io so che lui mi vede. Ma questo comunque tu dall'inizio... sai che chi vede, sì. Eh no, appunto, gli dallo dall'inizio. Questo comunque dall'inizio, sì, sì, sì, questo te l'aveva detto. Questo è chi... e però diceva non ha senso che tu tenga il potere attivo. Vabbè, no, infatti, allora no, appunto, adesso sono morte le guardie, che in teoria sono quelle che avevano la cosa, e era disattivo, e quindi posso, mi mantengo la reazione. Ok, Giulio, vedi farci comprare di fianco a te. Brucia, ciao. Che sta schiaffeggiando Vez. No, ti ho mancato. Fortunatamente. Perché sennò in realtà Giulio tu hai più o meno ipotizzato quindi... che fosse Arci a dare le spalate alla gente. Però... diciamo che... ehi, finiscono tutte nel fuoco! Minimo, dopo aver attivato il potere, Liro diventa distratto per un round. Incapacitante. Quindi in realtà è già finita sta cosa. Va bene. Vez. Quindi non perde la lezione. No, per un round, il primo, eri distratto. Che non so cosa voglia dire, ma penso che sia quella cosa che abbiamo fatto. Ma non vorrei che il suo potere, se lo tiene attivo, rimane anche l'incapacità. No, in realtà distratto non è una cosa, era molto di impatto. Comunque vai, Vez. Io sono di nuovo in me, ma a terra. La prima cosa che mi viene in mente di fare in un momento così cruciale è sparare due cloni. Che schifo che fai. È tipo, sai, come cazzo si chiama? Copritemi! Cioè, tipo, sai, Zion. In realtà, no. Intanto vomita. No, ma qual è la situazione, vomita, però? Sì. Ci sono le guardie che bruciano e muoiono a terra. Sheo che ha la pistola e semplicemente noi non sappiamo chi è sto qua. Sheo che sta picchiando. E non, non si vede più, quell'altro. Signore, quello con la katana, col testone, non ci vede più. Noi tre siamo tutti lì vicini. Ah, ok. Quindi siamo fuori dal round, di fatto. No, siamo qua. Cioè, lontano c'è Sheo che si figa sta guardia. Noi tre siamo tutti vicini. Noi tutti abbiamo visto la decapitazione. Alzarmi è un movimento. Sheo non l'hai visto. Tu non l'ho vista io. Tu sei lì che ti stai pestando con l'altro. Non è che vedi qual è il film di 20 metri più lungo. Alzate un momento, sì, alzate un momento. Allora faccio i cloni. Non mi ricordo che ti tira. E due cloni e mi alzo. Vuoi dire qualcosa ai tuoi cloni? Posso aspettare per dirglielo in teoria. O... sì. Cioè, proteggetemi! Se, tipo, dal prossimo turno, se io glielo dico, lo fanno subito, in teoria. Giulio. Giusto, Salla? Sì. Cerca il riflesso. Non sapendo cosa sta succedendo. Sì. Ah, dico... Se no farei un cerchio di fiamme intorno a noi. Io dico, ma abbiamo vinto. Non ancora. gli tiro uno schiaffo e mi metto a dormire. Boh, io faccio tipo un cerchio di fiamme intorno a noi, cioè punto il co... Aspetta, no, cosa c'è? No, vabbè. Uffo. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. Tu, no. No, nel senso, Dracari! Siamo nel parcheggio, c'è ghiaia, c'è erba. C'è... Sono Giulio, non è stata la tempesta. Cemento, ok. Ah, niente. Ah, cemento. Allora, boh, provo a vedere. Cemento. Sì. Provo a vedere se percepisco. Okay. Yeah. Se percepisco. Sei. Forze potenti. Sei. Vedi un luccichio lontano, vicino a Sceo. Puttanaccio. La vacca. Ah, devo tagliare la testa a Sceo! Però dopo sapremo dove sparare e... Sceo. E con Sceo morto una domanda, aspetta, di picchiare. Aspetta, una domanda retroattiva. Siccome ero il più vicino di noi a morire. Testa enorme dall'inizio, ho notato il momento in cui lui è sparito? No. Di quanto mi muovo? 6 metri. Sì. Cioè, mi muovo i 6 metri. Tocca a me. Sì, Giulio, tu ti muovi in 6 metri, sì. Vabbè, mi muovo in avanti verso Sceo. Fine. Se tocca a me. Round 4, 5. È il terzo che io ho attivato il potere. Terzo. Sì, è il terzo, perché io ho dato due spallate e una invisibilità. Sceo, ti tira un pugno. Schivo. Schivo. 6. Schivato. Mi chiamano Nio, te l'ho detto. Delle cattizie di combattere. Puttanaccia, dov'è? Dov'è? Dov'è? Dimmi pistone. Dimmi dov'è. È tra voi e Sceo. Cioè, non mi dire che mi hai fatto bruciare la mia reazione così. Ora il tizio mi siega la testa e non posso reagire. Dimmi questo. Più o meno sì. Roia. Vabbè, dopo non ho più remore di colpire quella zona. Sentite. Complimenti! Vada, non ce la faccio. E allora andremo in guerra! È la mia ascia! Ok, riproviamo. Sei su Baci, vota per Sei su Baci. Vabbè, comunque volevo dire. No, no, finisci la frase. Ora vi ucciderò tutti. E sentite... È la cosa meno fa più ridere. Sentiamo un... Sentite un urlo fortissimo. Che vi dà un gran fastidio. Beh, potete tapparvi le orecchie se volete, usando la vostra reazione. Posso sparare un colpo di pistola vicino al mio orecchio per provare a coprire così? No. Coprirsi le orecchie. Io e i miei cloni ci copriamo le orecchie. Anche c'è la reazione, mi tappo le orecchie. Faccio così. Quindi chi non si è tappato le orecchie prende 10 danni alla testa. Ed è incapacitato. Ossia un round distratto. No, ogni round può scegliere se usare il movimento o usare l'azione o usare la reazione. Ah, solo una? Allora io non ho capito cosa ho visto, però. Non è incapacitato il difetto, è incapacitato la condizione. No. Coglione. Pagina... Incapacitato. Ah, è una vita che non le trovo. Brutto coglione. 259. Il bersaglio è spaventato, a punto di avvicinarsi ai movimenti e di iniziare a tremare. Il soggetto può solo usare azione, movimento o risposte, fin tanto che dura la condizione. Sì, sì, va bene. Ma lì ci sono anche le altre condizioni, magari. Sì. E... Vabbè, quanto dura non posso sapere. Allora, dura, non lo so, tanto. Li ha tutti. Tutti, compreso chi si è tappato le orecchie, sì, sono assordati. Sì? Cosa? Sono assordati vuol dire che non sentite un cazzo. E avete il movimento dimezzato. Minchia. Anche noi? Tutti. In più, se il vostro potere... Sì, anche voi. In più, se il vostro potere deve usare una formula magica vocale, deve superare una prova di controllo. Io a pagina 250 ho malaria, lebbra, morbo di Parkinson, narcolessia, osteoporosi. Non la pagina del PDF, la pagina reale del libro. Ma anche la pagina del libro è 250, ci sono queste robe qua. 3. 253. Ah, allergie. Accecato. Okay. Detto questo, assordato. Il bersaglio non sente e ha il movimento dimezzato. Quello che appena detto. Ah, scusa, non... sì, sì. Detto questo, quello ce l'hanno tutti. A Archimedes Shield. È un piccolo problema. Vabbè, io ho one shot il tipo, ma visto che i miei cloni non posso sapere cosa devo fare. Cioè, eh sì, beh, puoi dirgli. No, no, posso fargli. Spara quello delle. Posso fare la prova per fargli capire. Ho capito. Io sono così con una guardia. Ok. Ti gira tipo, fare quello okay, pericoloso. Stai un attimo. No, intanto finisco questo. Ma lo sì, vediamo sì. Adesso. Lui, ok, però. Ho fatto con due dadi, tutte e due sei. Lo prendo. Signor Mardo, porti via. Schiva. Ovviamente mi rolla testa. Lo voglio one shottare. Buono. Yeah, un 6 per 20. Esatto. 40. 15 round per dire le botte. Cade a te. Ok. Il testone? No, no, no. La guarda. Ah, ah, sì. E non posso fare altro, ovviamente, perché... No. Archimedes Shield. Ancora. Allora, ci sono... Le guardie sono a terra e stanno morendo o sono morte? Le guardie stanno morendo. Le pistole che avevano? Stanno morendo. Ok. O sono per terra, io sono leggermente bruciate, dipende. Io faccio segno ai miei cloni, perché non posso parlare. Cioè, posso parlare ma non mi sentiranno. Di prendere le pistole, quindi gli faccio... Yeah. Loro si sparano in bocca, capito? Un 2 e un 5. Beh, una capisce. L'uno non capisce un cazzo e l'altro ce la fa. Tirate a vedere se il comando funziona, però. E a quello lì solo? Sì. 6. Ok. In teoria si avvicina una pistola, c'è il 20% che la pistola funzioni, non funzioni più. Quindi 0,20 non funziona. 0,20 non funziona? 20. 83. 0,20 non okay. Funziona. Un tuo clone non è armato. Sì. Ah sì, in quel senso. E io posso provare a prenderne uno anch'io? Sì, e anche tu hai la stessa possibilità. Io però capisco cosa mi voglio dire. Tira! Non sarei così convinto. 7! Morirai! Ma capisco... Prendi una pistola. Capisco, non capisco che non funziona. No. Ok, perfetto. Bello. Okay, potevi mettere anche la possibilità che fosse troppo calda per... C'è anche la possibilità. In infatti quello mi è... Però il tiro del sapere se funziona o no dovevi farglielo fare al momento dell'utilizzo. Salla. Io prendo la pistola. Più certo. C'è la terza pistola in giro, no? Quella che il clone. C'è un'altra, però. Una ce l'ho io. Ah, no, io ne ho un'altra. Se hai un minimo di intelligenza, puoi prendere quella del tizio che ha ucciso Katta, che non è. Sì. Quella lì. Ok. Prendo quella. Certo. Quella lì. E poi dico. Beh, ci sta, io non ammazzo mai nessuno. Guardo male Macrocefalo. Le mie chie sono improvvisamente schizzate. E gli dico, ancora Ramon! Ne faccio un D8 per 20. Però non te lo senti mentre lo dici. No, okay. Lo so, però ci provo. Spara. Ah, però posso già spararli. Eh sì, l'azione. Ah, easy. Miro la testa. Sparagli e basta, scusa. La difficoltà, la difficoltà è 8 e diventa 9 perché è un po' lontano. Quindi... Miro la testa e uso un punto psiche. 6 più 5 11. Ok, tira i danni. Un di 6 per quanto 20. Fa questa pistola? Un di 6 per 20. Un di 6 per 20. Oh, Arci. Mi ritirava una spallata piuttosto. Ma la testa tira, hai tirato. Sì, sì. Spazzalo via. Fai basta fare 3 per 5. Basta che fai 3. No! No! 40 danni però. Ok, la testa è molto grande e riesce a... Ah, è vero che questa qua ha anche la testa grossa. Era facile da prendere, dai, la difficoltà doveva è diminuire. È vero, Salla! Era più difficile colpire una spalla. Devi fare anche la prova. E quello che succede è che il proiettile passa attraverso la testa. E mentre sì. Passa attraverso, vedete che lui è mezzo trasparente, tipo spiritello. E quindi... Non e poi niente. Torna normale. Ok. No, quindi... torna normale dopo che Giulia agisce. E quindi non gli fa niente, in sostanza, il proiettile. Capiamo questo. Devo fare una prova di psiche, però, Salla. Sì, fa una prova di psiche. 6 di dado, più 4 di psiche, 10. Va bene, Giulio. Io sono... A quanto è distante da me, lui? Parecchio ancora. È distante una decina di metri. No, niente, non ci arrivo, quindi... Non c'è un cellulare. Puoi prendere una pistola anche tu. Avviciniamoci comunque. Torno indietro per prendere una pistola. Vabbè, torno indietro e prendo una pistola. Disattivo il mio potere, torno indietro e prendo una pistola. Ah, sì, okay. Effettivamente. Tiro il dado percentuale per vedere se funziona. Quindi cos'è? 1,20 non funziona. Esatto. 22. Funziona male, magari, ma funziona. Ma quindi le pistole le è tipo... Vuoi no, ne rimane una, ma perché Katta non la prende. Non so, per ora Katta... Katta proviamo prende una... a sparare. Katta prende una pistola, così. Non è la tasto. No, ma io sparo a cazzo. No, ma c'è l'altro mio clone, adesso glielo spiego. 5. Ah, no, giusto, non sono prese tutte, l'ho usato il clone, quella di Katta. Però mi passa attraverso. Quella di Katta l'ha presa Arci. Nel senso, come numero, sì, se ne abbiamo una testa, tranne Katta, ma ce l'ha il tuo clone, quindi... Vabbè, ha finito. Ok. Il tizio torna corporeo e cammina verso Sceo. Cammina piano, è lontano ancora. Sì, cioè è lontano, è tipo a 3 metri da te, però sì, ok. E il suo secondo movimento ti tira la katana. In che senso? Me la lancia? Te la passa? Però dalla lama te la regalo. Prova a schivare con la psiche. 11 totale. Che troia. Ha fatto 6 di danno. Schivi la katana. Oh! Ti lamenti dopo. Tira su psiche. Sì, aspetta, una gomma ce l'avete portata. Grazie. Vabbè, tanto ti 8. Perfetto, che culo. Ma solo io ho i disturbi mentali. Ma io sono svenuto. Così pare. E intanto tira fuori un altro coltello che portava dietro. Un wakizashi? Sì, bravo. Death Archer Shield. Io provo a sparargli. Posso, posso indietreggiare anche. Sì, puoi indietreggiare. Aspetta, aspetta, la katana dove è finita? Interessante. La katana è poco dietro di te, tipo a 3 metri. C'è la pistola in mano. Lo so, ma il mio secondo potere è il secondo potere di poter usare qualunque tipo di arma, come se l'avessi sempre usata, il che fa figo. Era figo. Prevede una tragedia. Diminuisco la difficoltà nell'usarla. È ancora la super mira attivata. Sì, no, la katana. Spara, sì. È che era figo l'idea di prendere la katana e ucciderlo con la sua katana. Però, però magari però aspetta, posso indietreggiare, sparargli, però intanto prendere la katana solo perché non la prenda lui? E no, se vuoi fare un mirato no. Perché mi servono due mani? Perché non puoi muoverti. Ma ah scusa, sparagli in faccia. Allora gli sparo in faccia. 5. Cazzo. Tu alla super mira fai 5 con due mani. Sì. Prima ho fatto 6 due volte. Ho fatto 5. Mi ricordano molto Salai e i tuoi arcieri. No, i miei. Anche questo colpo gli passa attraverso. Ah, ok. Sì, avevo fatto tanti danni, però. Va bene, raga, le pistole contro questo non servono. Esatto. Bisogna uccidere la vecchia. Vai, tocca a... Sì, la gag che te l'avevo fatto. Vado a prendere la katana. Toccano i due, fisso. Toccano due, Vez. Come i vecchi tempi. Posso... È molto lontano adesso da voi, A quant'è? Sarà 20 16 metri. Ah, beh. Allora, io non ho capito, la difficoltà di 9 cos'era per colpirlo? Era perché era mirato o in generale? Era mirato. Tipo sì, da adesso, da dove siamo noi, se io volessi colpirlo e basta, quanto dovrei fare? No, fai normale se lo fai mirato. 6? No. 6 lo becco? No, tipo 4, 3 cos'è? 4. Ah, ok. Se non mi... Allora, io voglio... Sei tu e il tuo clone. Però... Siamo io e il mio clone e c'è anche l'altro clone che non è... Però che non è fatto. Allora io voglio fare un segno ai miei cloni, tipo avanziamo. Spada, dimmi, sa che è inutile. Avanziamo e poi bisogna provare a sparare in altre zone. Io provo a prendere la katana. Ok, tira prima quello che non aveva capito prima. Anche con le altre cose. 3. Capisce? Altro che altro la testa, io non l'avevo. Però devo farmi obbedire o no? Sì, devi farti obbedire. Da questo qua, vediamo. 2. Tu vuoi provare? Sì. Un altro che non ha chiave la pistola in mano. Tu puoi provare. Tu dovresti provare a. 1. Lo so. Per non un. Non capisci un cazzo. Ok. Da saltato. Di testa? Tu pensi cosa fai? Sì, io avanzo e sparo. Che se fisicamente sparargli non serve. E bestemmio, immagino. Potere, sì, eh sì. No, non credo, Salla. No, non funziona l'arma. Ah, è vero. Clic, clic. Vaffanculo, troia. La solita fortuna. Tocca a me. Why not taser? Io, Salla, io lancio la pistola a Vez, cerchiamo di colpirlo in fronte. No, gli passo la pistola, ai Basque, ti riesce a prenderla al volo. Mi passa la pistola. E sì, faccio sì, tipo proprio attivare il mio potere per stordirlo psichicamente. Sì, sotto attacco psichico. È un po' lontano, quanto arriva il suo potere? Mi sembra di 16 metri o un centimetro, una roba del genere. Ah, puoi avanzare i 3 metri? Sì, può avanzare i 3 metri, esatto. Bersaglio di stanza. Grande, Arci. No. Sei meno preparato di me. Come si chiama il tuo, come si chiama il tuo potere? Se hanno preso potenziamenti 8 metri. Allora è quello. Non ha preso potenziamenti. Quindi non c'è rigido. Avanza. Scusa, io tira. Scusa, non devo passarmi la pistola. Spara. Ma è inutile sparare. Gli passa attraverso. È successo a lui, a me. Tu sei disarmato adesso. Io devo usare l'attacco psichico. Ero anche prima, non lo sapevo. Anch'io, no. Beh, gli sparo. Avanzo di 3 metri e gli sparo. Sparo in aria. Due. Ma non potevo colpire Sceo. Grazie. In effetti tutti i proiettili che hanno attraversato il tizio, cioè, sarà finita qualche parte. Su, questo non l'ha adesso, questo ha sparato a Vez, praticamente. Avanzo anch'io. No, era, tipo, era tipo, Vez, Vez, ti la pistola, non aspetta, non posso colpire con attacco. Pom! 5. Cosa hai fatto? 5, l'hai colpito. Alzato, passa attraverso. Minchia, okay. E vedi, non ci fa neanche tirare la locazione, riga. Pistole sono inutili. Tocca a noi o a lui? Tocca a lui, mi sa. Sceo. In realtà sto cercando di beccare Sceo. Lui ora è corporeo e ti dà una coltellata. Schiva, prova Sceo. A schivare senza usare la psi. 3. Schivato. Cioè! Proviamo a bloccarlo. Oh. Ok, se tocca a noi, io indietreggio e prendo la katana. E poi ti passa dietro. Oh, ma cazzo. Attraverso o lo gira? Lo gira. Cioè va dov'è la katana, tradotto? È davanti alla katana, più che altro se lui spera che se gli altri spari colpiscano te. Ah, ho capito. Allora, se tocca a noi... Speriamo su di scena tutti. Il clone che ha fatto uno capisce, comincia a sparare. Allora, domanda. Io vorrei disattivo... Tipo il motorino. Cioè, volevo attivare l'altro potere. Sì. Ok, disattivo questo. Volevo passare alla katana e provare con la katana a vedere se con quella gli faccio danni o meno. Disattivi l'altro potere. Però poi disattivi quello che è il movimento e basta. Esatto. Quindi ok, però scusa, domanda, prendi la katana, attivalo dopo il super. Esatto. Domanda, questo qua funziona come l'altro, cioè se lo attivo devo poi aspettare il turno. Ricorda che l'altro si disattiva perché mi pare che sia il sesto turno questo. Sì, ma io l'ho attivato molto dopo. Tipo è 2-3 turni che ce l'ho attivo. Tre turni. Sì. È 3 turni che ce l'ho attivo. Sì, finché non avevo la pistola. Ti ricordi che ho detto aspetto per attivare? Va bene, va bene, va bene. Allora ti sposti, prendi la katana e attivi il potere. Posso farlo? Sì. Ok, ma sono addosso a lui o c'è tipo un paio di metri? No, sei addosso a lui. Ok. Sono le 11:40. Fatto. Vez e Arci. Ora avete lui e dietro Sceo. A che distanza è da me? A che distanza è da me adesso? È più 3 metri. Qua più 3 metri. Si è mosso. Rispetto a te 13 metri, rispetto a Vez 13, rispetto a Giulio mi sa che 13. Sì, 13. Mi muovo di 3 metri e gli sparo in fronte. Giusto? Posso? Gli spari. Sì, sparo. Sceo è dietro. Massimo è Sceo. 5, non ho fatto 5. Oddio. Gli spari in testa. No, gli sparo. Ah, spari. A chi stai sparando? A te. L'hai colpito? A te, perché se te sei corporeo, se ti becco magari passa il proiettile e becco lui. No, lui è Sceo, è dietro di lui. No, è corporeo, sto qua adesso. Ti dà locazione. Per vedere dove becchi. Uno! Sette. Che dai danni. Cosa gli sta colpendo? Gamba destra. Bene, gli faccio esplodere questa gamba di merda. 120. La gamba di Sceo. Sceo, tu non vedi niente? A un certo punto vedi che lui diventa trasparente e la tua gamba salta in aria. No! Destra o sinistra? Aspetta, quale gamba hai beccato? Destra. Ottimo. Perché è una finta? Ha ancora 5 sì. punti vita la mia gamba destra. Lo stesso, vabbè, ho capito, sto in piedi però. È quella bionica. No, 5, no, 5 punti ferita, no. Ancora, no. 5 punti ferita ancora. È quella bionica. Non stai in piedi, 5 punti ferita vuol dire che cioè, funziona, ma è tipo ha subito un colpo fortissimo. Però non salta via. Vabbè, però non esplode. No, però casca a terra. Vabbè, ma la gamba c'è. Sì, sì. Sì, capito, la gamba anche c'è, perché sì. per saltare deve andare molto meno, mi sa. Ah, per sparire deve... Vabbè, sì, e poi sale comunque un colpo di pistola, non ha un fucile a pompa. Cioè, vabbè, quello è il danno. Che... Lo so, però gli hai fatto... Ok, tipo, sparare no. Sì, sì, no, ci sta. Però non ti salta la gamba. Sì. Sparare no. Lascio, prendi un po' di fatica. Però potremmo fuggire. Scusa un attimo, Salla, però questa cosa... Ah, bella fare... l'idea di scappare adesso che uno è gabbizzato, mi piace molto. Come esatto, era. Sì, era ora no, che hai gabbizzato, correte. Perché se no non finivamo più. Cosa? Cioè, ho tolto l'incapacità tetta. Sceo e giù. Se no non finivamo più. Sì, ho notato. Vabbè, adesso spari da sta Sceo che è terra. Punto vabbè, meglio... preso allora sta a me. È meglio che smetta di soffrire. Io è passato un round, faccio altri due cloni. Io non ero incapacitato. Io mi sono scusato le orecchie così. Beh, è uguale. A tutti, dando fuoco a tutti. Vabbè, quello che se ne frega. Bosi che dabbava. Esatto. Sì. Guarda così. Ma vabbè, ok. Funziona uguale. Non mi è piaciuta la reazione diversa. Regà, hai gambizzato, corriamo. Cazzo, ma la mia gamba destra, porca troia, deve sempre... Ma qual è quella la gamba destra? È quella bionica. Dai, non ce l'hai fatto male. No, sono altri 20.000 euro per riparare. No, ok, però non hai provato dolore, se ci pensi. È vero, non ho provato non dolore. Non ho provato dolore, Sceo. Cioè, vabbè, hai spartito una gamba... No, però... serio, la cosa influisce, secondo me un po'. Sceo, qual è il tuo punto fatica? L'ho fatto. Fatica. Ah, come funziona la fatica? Tiro un D6. Non lo ricordo mai. Ho fatto 2 col dado, non so. E quanto hai di fatica? Tipo 2. Perfetto. Dez e... Cioè, devo fare almeno un giusto? Dez, hai fatto i cloni e poi? Faccio i cloni. E dopodiché dico a tutti i miei cloni, cioè non dico, però gli faccio segno di avanzare. Armate! Ah, ancora... questi due cloni qua vanno più veloce, non sono assordati. Non sono assordati, no. Faccio segno di andare. Puoi parlare. Puoi parlare. Ah, è giusto, è vero. Lo dico anche, però agli altri gli faccio segno. Però parla a voce troppo alta perché lui non andiamo, si sente. Dico, andiamo a bloccare quel tizio con la testa enorme. E poi cerco di stare dietro, avanzando cerco di stare dietro ai miei cloni. Devo tirare, diciamo, 2 per farmi capire dagli altri due, giusto? Cioè, li usi come scudo. Sì. Sì, ma tanto non funziona sta cosa. Beh, 1-5 e 1-1 per farmi capire dai due. Quello che ancora non ti aveva capito è rimasto indietro. Quello con la pistola. Quello che ammazzava. Quello con la pistola, ovvio. Che ora è come John Travolta, ma con la pistola. Ah, io ovviamente getto la mia pistola, che è inutile. No, canta in questo momento è John Travolta. E... Beh, poi ci sono due, guarda, ci sono sia canta che fa così. Vabbè, puoi tirargli, è un oggetto contundente. Faccio un tiro sui tre per farmi obbedire. Beh, sicuramente il calcio della pistola fa più danni. Immagine dell'arte. 2-1 e un 4. Okay. vedi che uno di quelli nuovi che hai preso corre indietro, tipo... che cazzo! E quello con la pistola invece ti guarda e fa... Tipo, come mi sono rotto il cazzo e si siede per terra. Ok, è già tanto che non ti ha sparato. Quello nuovo va avanti, giusto? E vado avanti anch'io di 3 metri. Ah sì, ecco. Prendo intanto il taser, è l'unica cosa con cui potrei far danno. Prendi il taser. Beh, ho già ste armi qua. Adesso mi armo di petali e lo comincio a picchiare anch'io. Raga, io ho ste armi qua. Non avendo contatti armaglioni. E di quasi non trasceva lui. Conoscevo terra morto. Allora, Kill Bill dove Sceo è Bill? Ma più che altro io non capisco, no, se... Ma lì anche equo. È tipo lo scontro. Cioè, non so se questo lo... Ma dove Sceo? Cioè, c'è già stato morto da Black Mamba. No, è che o continuiamo a sparargli. Schiva questo, lui lo schiva e che... muore. Forse se lui gli fa un attacco psionico. Cioè, dipende se questo c'ha cioè, se non ha dei potenziamenti, magari si affatica a fare ste cose. Può essere che dopo un po'. A chi tocca? Però non possiamo niente. Sapere. A chi tocca? Scusa, un po' perso nelle battute. Se no col fuoco, Giulio, lavalo. lavali col fuoco. Cioè, lui si scorporerà e poi tornerà corporeo dentro il fuoco. E diciamo tutto questo mentre il abbraccio a Giulio mentre è corporeo. Sono ancora troppo distante. Mi sparo prima io. Anche tu, poi, è anche attuale per questo mentre lo e poi incenerisco Sceo. Vabbè, ogni cosa, cioè, due piccioni con uno. Un D8 per 20. Non lo so. Tu... Se no, raga, potremmo fare la tattica sorpresa. Anche se comunque morirebbe Sceo. Avanti di 3 metri e sparo. Finire parli... Sceo e dire finalmente ci abbiamo fatto. Raga, a parte, dietro ci sono io. Sei a terra. Sei a terra. Tu, però poi ho capito. Se becchi una gamba, poi becchi me. Sei andato per terra. Gli vai invisibile e lo blocchi. Uno, ok, a posto. Il blocco, se io però blocco. No, lo so. No, però all'inizio lui non... Anzi, becco uno dei cloni di Vets che erano dietro. Cioè, no, infatti però se lui non ti vede, non può diventare un scorporeo quando gli pianta un coltello. Se funziona così, sì. Sì. E fa... Non posso parlare. Parla, parla, stronzetto. Eh sì, devi. Stronzetto. Vai con sta cazzo di voce. Piccolino! Nessun uomo può uccidere e uno muore. Cazzo, ci voleva Ambra. No, io devo dirgli: io non sono un uomo. E ti coltello nella testa. Sono un po' le strade. Tirate, okay. Ti tiro una katana. Posso schivare? No, la katana ce l'ho io. Ti tiro una wakizashata. Posso schivare? Provo a sparare con la katana. Si può. Certo, scusami. Allora lo faccio, è figo. Parla col braccio, sono scemo. Parlare funziona sempre un disegno. Parla con la gamba. Quella buona. La difficoltà varia dal parare a schivare. No. Ok, allora... Schivare va bene? No, parare puoi fare anche lo stesso risultato. Sì, vai. Ok, paro con la katana, allora. E paro, 5. Paro, parerò. Invece con l'altra mano libera ti dà un pugno. Però ha parato. Sì. Grande. Cazzo. Ti dà un pugno. Scusa, ma secondo quale regola può fare due attacchi? Perché... Tutti voi potete fare due attacchi, eh? Vabbè, di fatto io non lo uso mai perché uso fiamme. Come possiamo fare due attacchi noi? Eh sì, ma con la pistola con le due armi, cioè se due pistole spari con due pistole. Ah, ok. Vabbè, ma non sai che ti dà due pugni. Tu puoi dire due pugni? Certo, sì. Questo non lo sapevo. Quindi io dopo posso sparare e usare fiamme. Devo venire a salvarvi la vita, dice Katta. In realtà ho asciottato un tipo subito. Sì, vabbè, ho capito. È lui che ci ha fatto combattere, noi ci eravamo già resi. Io ne ho uccisi. Sì, esatto, è vero anche questo. Al momento di rispondere a te. C'è mio fratello che mi ha scritto se non ho rimorso per le vite delle guardie che ho ucciso. Assolutamente no, anzi. Beh, Giulio ha rimorso solo di non aver ancora ucciso Sceo, ma tra poco si avvicinerà abbastanza. Questo perché non ti ha mai seguito nei nostri giochi di ruolo che fa domande del genere. È perché di solito qua, finora mi sono sempre comportato bene, mi sono rotto le palle. Stai scherzando? Vabbè, in questa situazione non c'era molta scelta. No, ma in generale, io adesso ho deciso che busserò tutti. Ma come cazzo lo... Cioè, dopo tutto quello che è successo... Vuoi che mi colleghi su Skype? Sì, va bene. Come funziona? No, chi si collega su Skype? Carta. Perché? Boh. Beh, perché fa parte di questa avventura, a teoria. Solo che... Un attimo che... Si fa gli ultimi 10 minuti per Alex. Cosa dobbiamo fare? È vero, questo è stronzo... Aggiungi. No, vabbè, questo può farlo solo per l'Expo. Allora anch'io vi aggiungi telefono, persone. 5 minuti, rega, come va, tutto bene? Mi dai l'Expo. Sì, cazzi, non se la prende l'Expo. Lo aggiungo così guarda la sua rovina. Ma non c'è online, Katta. Sì, però devi andare online, Katta. O è troppo casino? Se magari ascolti la diretta invece di scrivere cazzate. Oh. L'ho aggiunto ma non è online. Devi andare online, Katta Briga. Ah, ecco. Aggiungi tu? Ma io sono online. Come cazzo lo gestisco però adesso? Ciao Briga. Non lo vedo io. Attacca però. Beh. Hai washotato un tipo. Vai in immagine però, Katta. Comunque ti fa. Se sei presentabile, gamba, alla gamba. Catta, metti il video. Cosa mi fa? 40 danni alla gamba sinistra. 40 alla gamba sinistra. Ce l'ha? E perché non lo sì, vedo? Anch'io ti vedo, cazzo. Io non lo vedo. Ciao, 40 danni alla gamba sinistra. No, perché okay. Io non lo vedo, però? Perché tu. Catta, eccolo! Memoria di quello che è successo intorno a te. Perfetto. Catta, ti ho detto. Ho detto che ho visto tuo fratello, Catta. Direi che è perfetto. E senti gente che urla. E cosa c'è intorno a me? Intorno fuoco. A te c'è Pez in piedi che urla tipo era un clone davanti. Vai avanti! E due cloni di Pez dietro, uno con la pistola in mano che si guardano intorno. Tutte le cose vengono sfottute. E io che c'è colpo a colpo sto spaccando gli arti di Sceo. Due arci che avanzano sparando. E poi in fondo staranno in cielo e Sceo che muore. Vedi un uomo che sta malmenando qualcosa che è per terra. Quest'uomo ha una testa enorme. Sta malmenando qualcosa che è per terra. Sono io quel qualcosa per terra. Siccome sei ormai a pezzi, cioè, ma cosa a pezzi? Mi hanno solo sparato i miei amici. Invece di Melma, riconosco la figura di Sceo in quel. Beh, sì, cazzo. Sì, ovviamente sì, tra il sangue e tutto. Riconosci il colore del sangue, ormai lo conoscete. Pezzo, che la qui l'ha scritto. Bene, in uno sprint di empatia e di altruismo mi recherò da lui e cercherò di guarire. Molto lontano. Attacca una scritta lì, fai prima. Che c'è qualche ferito più vicino. Ci sono dei cadaveri e delle persone che si rotolano ustionate. Sono due persone, due guardie che stanno bruciando, tipo uno con un braccio e una gamba carbonizzata e l'altro pure. Cato, e ce n'è uno invece che ha proprio anche la testa carbonizzata. Puoi se devi connettere con per salvare i nemici, puoi anche sconnetterti, eh? Uno per te. Ah, la stit per me! Va bene, in tutto ciò, quindi non capendo che cosa succede, mi dirigo verso il ferito e cerco, quando ci arrivo lo curerò. Allora, gli sparo, Salla. Quale ferito? Sceo, credo. Aspetta, il ferito io o le guardie? No, aspetta, in realtà Catta potresti tirarmi su mente. Come faccio? Tiro qua e ti dico che risultato faccio, quindi tipo 17 su di 6. Ma il tizio ha la testa grande? Se no, se mi elenchi... Ah, aspetta, tiro. Cosa mente, quindi è sempre il solito di 6. Ma aspetta, non ha capito che si dirige verso 6. Di me col tipo sopra. Una domanda, ma Catta no, scusa, ma Catta non deve fare la prova dell'udito, no? Beth è più vicino a te. Non siamo da chi mi connetto. E subito dopo ci sono Arci e Giulio e noti che tutti e tre hanno un rivolino di sangue che gli esce dalle orecchie. E tutti e tre stanno urlando, tipo... Sì, hanno provato una pratica... No, io non sto urlando. Però sì. Vedi anche un mio clone che corre verso di te. Un clone seduto. un clone che fa così. E un clone che invece sta andando avanti. Tranquillo. E tu, Catta, tu del fight sei stato la meme di John Travolta. Che facevi? Ok. E poi sono venuto anche il clone di Vez a fare... va bene, questa cosa, questi indizi mi riescono a far pensare che hanno dei problemi. Fa il turno Catta e vado a pushare 15 volte. Sì. E posso provare a rimettergli a posto i timpani? Posso provare a fare usare il potere per curarli. Potrei anche investire 5 punti nel talento, nel potenziamento multiplo. Che hai detto insieme, però, no? Detto, sì. Cioè, ne puoi toccare due, no? Sì. Ok. Sì. Chi saranno i degni di ascoltare? Oppure gli altri due. Chi saranno i degni di ascoltare? I cloni di Vez. Fuggite, sciocchi! Esatto. I più vicini non ci sto a pensare. Uno tra Giulio e Arci. Ma quale sono io? E poi Vez. Esatto, tra l'altro. È l'unico con il rivolino di sangue. Ah, okay. No, anche, anche due cloni hanno il rivolino di sangue. Sì, ma sei l'unico che sta urlando. Ah. Magari i miei cloni stanno urlando. Non ti sento. Che cazzo vuoi? Quando parli non si capisce. Mess e Giulio. Va bene. Okay. No, non devi. Ah no, sì, tira. No, non devi tirare. Tira solo i danni che ti prendi tu alla testa. Erano 10. Ok, allora ti prendi 10 dalla testa, Giulio li prendi 10 punti ferita alla testa e toglietevi l'assordato. Ok. E quindi ora potete muovervi di tutto l'elemento e ci sentite. Magia. Anch'io? Io e te. Arci, Beth, Cattabriga è il mio... Grazie, Catta! Alzarmi un movimento. Adesso mettimi i soldi dove li trovi. Non so come siamo messi esattamente. Ma cani selvaggi. Catta, che problemi avevi? Il mio potere è attivato adesso. Sono più da me. Attivato. Quindi volendo posso alzarmi e tirargli una catanata e un pugno. O sto chiedendo troppo? Sì. Allora lo faccio. Perché è una mano e mezza la katana. Il mio potere è meno uno difficoltà. Con armi da mischia. No, è comunque la spada bastarda anche nella realtà. C'è una mano, cioè, nella katana, una mano e mezza che puoi usare sia due. Il mani, mio potere dice anche che adesso posso mani. Usare due armi, però intende due armi da mischia o anche ibridi, cioè anche se la da me io lo posso usare. Cioè katana e pistola non posso. Chiedo troppo. No, non puoi attaccare a distanza e avvicinare. Immaginavo. Ok, allora niente, che volte ho giocato a tennis avrei avuto. Ti rialzi e ti troppo. Katana faccio 6. Però non so quanti danni faccia nel caso lui non sta. Vabbè, intanto tira anche il pugno. Ah, tutte e due. Sì. Sei con la katana? Tira la katana. Con la katana e sei col pugno. Mamma mia. Ivo, vedi il super soldato. Ok, lui schiva entrambi. Ah, no, vabbè, ma allora. Ma serio? Si può fare? Allora, lo schiva. Il primo lo schiva e il secondo pugno gli passa attraverso. Ecco, bene. Forse ma possiamo fare un tiro di mente per capire se ha un punto debole? Dalla me, un tiro di 8. Puoi no, usare il tuo round per... E in teoria abbasso la difficoltà, okay. Io, però se facendo 6 lo schiva. Tira su mente. Sta a me? Sì. Ma io quando agisco? Adesso. 3. Boh, ho avuto sufficientemente fortuna. Avrà un punto di avrà un difetto. Tutti i poteri hanno un difetto. Tutti i poteri hanno i poteri. Ma si possono eliminare i difetti dai poteri? Cioè, di fatto, l'unico che ha provato a colpire con un'arma da mischia sono stato io e l'ha schivato. Non l'ha attraversato. Adesso faccio schivare questo. Quindi questa era la mia azione. Quindi potrebbe essere che le armi da mischia... Posso però dire ai miei cloni di raggrupparci. Mentre il pugno lo posso fare. Gli faccio, dico, raggruppiamoci! Pensa di cazzo, raggruppiamoci tutti! Soldati! Testuggine, cos'è? Tiro. Mi sembra Rick con tutti i modi. Allora, due mi devo far capire. Tra un po' quando farà di nuovo 2000 cloni. 6 e 2. Cazzo. Però uno capisce. E l'altro cosa fa? E i 3 gli faccio un tiro del comando. 5, 3 e 2. Ok, quello che se ne stava andando continua ad andarsi. No, perché... Facendo così... No, salla. È perché io ho tirato i due per non... Che no, quello che andava via sapeva. Cioè, sente. Capito? Quindi in realtà lui ha capito. Ma uno dei due che hai tirato all'inizio che non capiva un cazzo, continua a non capire un cazzo. Sì, però quello che stava andando via in realtà ha capito. E mi obbedisce. Perché ha capito? Perché lui sente. E l'altro no? No, hai deciso quale era quale? Aspetta, tu mi hai detto che uno dei due... Che avevo evocato subito, avevo evocato dopo, cioè che sentivano, insomma, andava via all'indietro. E questo qui ho fatto controllo 2. No, anche quello con la pistola. Allora, quelli che sentono sono i due che ho evocato. Uno è andato avanti e uno è andato indietro. Che non sente una sega che hai tirato. Non continua a non sentire una sega. Ah, ok. Che continua. Ah, no, ok, posto. No, perché hai detto che quello che andava indietro continuava ad andare indietro, per questo te l'ho detto. Quello della pistola è già indietro in te. Sì. Ah, e quindi gli altri capiscono, insomma. Gli altri capiscono. Almeno fatti ridare la pistola. L'unico armato. Sì. Allora, in questo momento è trasparente, dietro a scemo. Io faccio sana. Faccio fuoco. Mira la testa. Che cazzo. Vabbè, va benissimo, mi manchi. Mi avvicino il suo potere. Se mira alla testa mi manca, però, perché sono alto 1,5 metri. Schiva questo! Tirare. Cosa? Controllo. Okay. No, controllo. Non posso però usare un punto psichi in questa prova, vero? No. Perché ha 10? Però di 8 in realtà di controllo. 10. Sì. Ah beh, lui. Oh! Brutto! Tre. Lui si volta e si sbustate fa. Mi sta prendendo in giro! Cos'è che hai fatto? Gli hai leccato l'orecchio. No, il mio potere mi ha fatto tre di dado. Gli hai leccato l'orecchio. Ma non sei diventato invisibile, però. No, non quello, l'assalto psichico. No, però non sei diventato invisibile. No, gli ha fatto l'assalto psichico. Cosa c'è? Sì, che 4. Quanto hai di psichico? Hai solo 4, veramente? Non mentire. Adesso ho 4. Ah, no. 2. Di dado. Ah, no. 2 più 4, 6. Scusami. Ok. Che ogni volta che usi i poteri psichici sei sotto stress pure tu. Vabbè, fin qua. Niente di nuovo. Giulio. Solo che io si finisco in coma. Mazza Ciro, brucia anche lui però. Finiscilo. Vabbè, oh. Ciro. No, sto pensando se lui adesso sarà a tipo 10 metri. Forse. Sta vicino sì, a 7 metri. Ce l'hai anche i soldi per ricomparti? Mi avvicino un po'. No. Allora basta, brucia. No, forse seriamente le armi da mischia. Ah, adesso a 7 metri. Forse le armi da mischia, che è strano. No, non essere, metri, ma tutti i pomini, che il pugno no, l'ho trapassato. Però la katana l'ha schivata, non l'ha trapassata. Vabbè, mi avvicino e basta. Magari però. Secondo me non può schivare. Sì, a 4 metri da lui. Con il trapassato. Sì, capito. Avrà dei limiti, quindi ogni tanto bisogna anche la schivata. Sì. Ah, tocca a lui e prova a dare un'altra katanata. Pugnalata. Wakizashata. Prova a schivo. Paro con la katana come prima. 6! Colpito. Ho detto 6! Avrà un dio. Vez lagga questo computer. Non funziona. 6! Non sentono. Sono 50 danni al busto. Ok, vado a 80. E poi vedi che lui comunque ti sta guardando ed è abbastanza al fiatone, abbastanza affaticato. Oh, no, okay. Lui non ce l'ha il giubbotto antiproiettile, so che è una domanda abbastanza indifferente. No, però è cioè, ha un'imbottitura. Ok. Ma tipo armatura giapponese? Forse, sì. Cioè, più o meno, ci assomiglia. Ok, che buffo, Se tocca a me provo a rispondere, però se vedete, se non vuoi provare a spostarti, io dopo provo il mestiere di fermo e vediamo cosa succede. Ok, riesco ad arrivare a Sheo? No, perché è dietro di lui. Dietro a Tifra di Storia. Cura Arci. Curerò Arci. Cos'è l'altra? Vuoi tirarti 10 danni direttamente? Perché cioè puoi prenderti 10 danni diretti. Arci non sei più. Non sono più? Sordo. Cosa? Non sono più. No, ma non ero mica sordo io. Sì, con un multiplo posso curare sia lui che a me. Sarebbe un po' OP, veramente. Arci, se scatta tua frequenza migliorata. No, prendo un punto fatica. Ok. Io cosa salla? Ah, prima hai usato anche il tuo potere. Quello vero. Che stai parlando? Mentre non giocavi, ma giocavo io. Ho usato il potere. Che ho usato io per fare un mirato alla testa di noi uguali. Quello di modificare le cose. Sposerla. Va bene, vai. Beh, Arci Shio. Io non lo so. Io gli faccio attacco psichico, così fine di niente. Faccio 2 di dado. Prova, dai. Se sei salla. Vai. Cos'è che devi fare 5 o più? Cos'è il round di 6? 5 più? 3. Confermo. Se no. Non posso, sicuro che non posso riprendere psiche sul tiro dado e controllo? Ma sì che puoi. Sei stronzo, te l'ho chiesto prima. Prima hai detto no. Ah, dai, Salo, sei una merda. Se vuoi leggere il cazzo di manuale. Non mi puoi dire no, apposta. E poi mi dici sì il turno dopo. No, se vuoi puoi usarlo su questo. No, certo che lo volevo usare anche prima. Va bene, togliti un punto psichi. Quindi è 7 in totale. A lui. Quindi è 7 in totale. Fai una prova di psichi, anzi due prove di 40. 4, 7 una e 9 l'altra. Madonna. Chi ha la gomma? Gioca a mezze scelte. Beh, ma lui non è un po' tipo confuso, un po' ritardato. Lui ha perso un punto psiche e fa una mola di psiche. Ma noi da fuori, ignoranti che non sappiamo cosa sta facendo Archie, cosa vediamo? Niente, non so. Assolutamente niente. Ok, io non gli do un pugno, ma gli do una catanata e vediamo che succede. Poi sposti. Vai, cioè, tira. Cazzo, 5. 5 e... 5 lo colpisci. Tira la locazione. Eh sì, e poi mi dici quanti danni fa, perché non lo so io. Gamba destra, la mia preferita. Okay. Non fai 3 di 4 sì. Per 10. 3 di 4 per 10, 1. Pezzo di 4. Ce l'avevi qua da qualche. Uno l'ho preso, me ne servono 4. 4 3, scusami. 3 di 4 per 10, 3. Grazie. 3, insomma. 3 hai detto? Sì, scusa, mi sono ritardato. Ma il che vado fa 120. Ma ce l'ho. C'è ben che vale. 6 per 10 60. Ok, lo ferisce la gamba destra. Destro o sinistra? Destra. Destra. Destra. Con la katana sì. E niente. Poi pensavo. Qui non esistono gli attacchi di opportunità, quindi posso indietreggiare. Sì, esistono. Ah, la reazione in sostanza la può usare come. Quindi se io mi allontano, può. Da dove ti muovi e come ti muovi. Indietreggio, di 3, indietreggio di 3 metri perché sono ancora assordato io. Ok. E beh. Allora io nel mio arsenale. C'è scritto che ho dei coltelli, ma non ho scritto quanti. Quello che io vorrei fare è distribuire, non so, quei coltelli che ho ai miei cloni. Ragazzi, è bellissimo. Ma cosa bellissimo. La gang di Vez. 4. Ok, ne hai 3 a disposizione, perché uno è dato a darci. Sono tu, cloni. Ci ho dato un coltello. Mi avevi chiesto un coltello. Vabbè, comunque non è importante. No, me l'hai dato. Te l'ho dato. Sì. Allora, noi siamo raggruppati adesso, ci sono 3 cloni con me. Ok. È un esercito. Armo i 3 cloni. Ok. Faccio altri 2 cloni. E poi... E vabbè, cerco di farmi capire anche da quello che è lì che non capisce, lo scuoto di papà. La cosa divertente è che appena ne uccidono uno, Vez viene, va in coma. Sì, probabilmente sì. Ma il turno... No, ma ecco lì, cosa devo fare? Mi hai evocato anche il turno prima. No, 2 turni fa. E... Possiamo girare con degli scudi e delle lampade, così facciamo una falange. Una cosa, esatto, lì la cosa fatica, la stavo cercando. Come funziona? Che si tira un D6 e niente, lo e devi fare meno del tuo numero di fatica, differenza e l'effetto. Ah, ok, posso. Un attimo, se Vez ha un coltello in mano e si clona. Scusa, no, ma allora prima non ero svenuto, perché ho 7, 1, 6. Vabbè, è lo stesso. E vai, andiamo. Devo fare sì, i tiri. Allora, per farmi capire, da 2 tiro. Uno, vabbè, lontano, però vabbè. 3 e 6. E poi tiro, quindi tutti i 6 da di controllo. Che cazzo siete, Vez? Quanti cazzo che sono? Tutti dal 2 in su. Va bene. Avanziamo! No, con me sono 5, poi ce n'è uno sperduto che però ha capito adesso. No, ha capito! Adesso ho capito, no, scusatemi! Quello armato. Che bello. Quello con la pistola, sì. Però è più lento. In realtà siamo tipo io e quello... Vabbè, Giulio, sei un altro soldato. Che esatto, tipo i 4 vanno più veloci. Poi ci siamo... Ah no, io non sono più assordato, vado con io gli altri. Io sono a 3 metri dal tipo. È 3 metri, Vabbè, io vado insieme a quello che sono lento. Che è lento. Vabbè, provo a muovermi in modo tipo che... Tipo gli tiro qualcosa, andiamo, fratello. La fiammata lo becchi... senza che becchi Sheo. Hai sentito, Sì, sì, voglio beccare Sheo, però. Senza che becchi il tipo. Andremo alla guerra. Comunque è figo, cioè Sheo ha una gamba che non può muoversi. Se tu bruci con la zona, li può solamente carbonizzarsi senza fuggire. E niente, cosa... La diventa invisibile. No, in realtà io penso dimmi il comando che fai. Ah, già, giusto. Mi mente. Perché sta cosa faccio? 2 metri. Allora, un cono di 2 metri. parte da Giulio e travolge in pieno il tizio. Sembra esagerato. Tocca a il tizio che esce dal cono e dà una spadata a Giulio. Ma non becca danni però? Aspetta, nel momento in cui è entrato... Non becca danni, Salla. Esatto, nel momento in cui gli arriva il cono... Ma i tuoi danni però di katana li ha beccati. L'ho ferito una gamba. Solo la sua arma forse lo colpisce. Non lo so, ho le armi da mischia. Oh, io provo a parare col cellulare. Sì, ti prego, che gli spacca il cellulare. Merda, no, perché è super resistente. Vediamolo subito. Portatemi un coltello. Non metto questo. Provo a vedere, scusa un secondo. No, quello vero. Allora, sì che... No. Quindi morì. Anche perché non ne ho più, praticamente. Ah, chiedevo. Vai. Come ha detto la differenza, era troppo alto. Ti colpisce. E conta che con psiche avrei fatto 6. Ah, scusa, ti colpisce al 3. Giusto. Giusto. Fa 70 danni. Ottimo. Scusa, ma tu sei andato... Ah! Tocca a Katta, e mentre tocca a Katta sentite il rumore di una macchina che si avvicina. Ma l'ha tirato il pugnale? Porta troia. Cioè, può essere o qualcuno che si salva da questo stillicidio. Uno che pone fine alle sofferenze di scena. È una Chia Pica in tonera. Si sciamba e ti spara. Sarebbe epica. Stronzo. E Mamre che fa sempre come ti ho visto, a terra come un cazzo, terra. Cazzo, è vero però. C'è una terra. Cosa è vero? Potevamo prendere la macchina. Investirlo e prendere te e scappare. Va bene, ho appena visto Giulio venire lanciato in un braccio, immagino. No, busto. Busto. Ma dov'è Katta? È un po' indietro, sarà 6-7 metri. Insieme a me? L'ha curato Giulio, cioè il corpo prima. È insieme a me? Quindi 6-4 metri. Posso raggiungere e curare il busto? In teoria sì. Cazzo di sangue. Salta qualcuno. Ma chi cura? Aspetta. Tanto la tua gamba non te la può curare. Perché non è organica. Ah, giusto, è vero, la mia non è. Cazzo, la mia va giusta. Un altro punto volta. Fatica e correrò Giulio. Il busto. Quindi prendo 10 danni. Busto. Cioè, il colpo migliore, il colpo più brutto. Penso che non abbia altri danni. È stato da voi. Prima. È ignoro. Sei. Che culo. Oggi tira. Quindi volta, quanto però. Mi curi? 60. Oh, quasi full. Cazzo, potevo farlo prima. Vabbè che 3 metri era. Sceneggiatore, puoi tenere conto che l'unico colpo forte che ho subito è stato da fuoco amico. Veramente. Salla, quant'è la nostra macchina da qua? La vostra macchina è parecchio lontana perché l'avete messa parecchio lontana. Più vicina c'è una macchina che sta arrivando e punta i fari in faccia, quindi non vedete che macchina è. La ricca. Nel difesa ci posso dire che avevo capito che lui fosse dietro di te, non davanti. No, no, ma si sta in realtà di provare. No, a chi sta? Ma spingi. E comunque. Perché? No, ma sei dietro. Se miro all'altro, se lo becco e gli esce dietro. E io niente, gli provo a tirare un'altra catanata, ovviamente. E un pugno. Ma il fatto che io ho il potere attivo, scusa una cosa, questo meno uno difficoltà vuol dire semplicemente che per colpirlo invece che fare 4 tipo devo fare 3. Ma non dà difficoltà a lui a schivare o cose del genere. Quindi in realtà potrei anche disattivarlo. Perché sennò rischio di accumulare fatica, giusto? Non so, scelgo il tuo turno, frizza sempre il tempo. No, accumulare... Cazzo, attaccalo! Quanto... Sì, certo, ma quanto ci vuole accumulare fatica? E vai in mezzo alle fiamme. Sparo mirando l'altra gamba di Sceo. Vabbè, intanto lo attacco con la katana. Ma il problema si risolve facendo 2. Però la difficoltà è l'ho abbassata. Ma non ho capito. Sto parlando. Sei che hai il colpo dell'attivo. Sì. Colpito. Ok. Quindi allora è servito. E c'è la locazione. Cos'è che c'è? 2, busto. Busto grande. Quindi sì, non gli fa una 3 di 4 per 10. Dai, fammi 4, 4, 4. 6 è santa come prima. E indietro. Aspetta, faccio. Posso rifare. No, non posso rifare i 3 metri indietro perché li ho usati per avvicinarmi, immagino. Non so lui come si sia mosso. No, non puoi fare i 3 metri indietro. Quindi io ho capito. Sto qua rispetto alle fiamme. Dove sono le fiamme? Le fiamme sono tra te e Sceo. Allora, io... E lui è tra le fiamme e scelte. Ci sono quattro dei miei che sono più avanti. A che punto sono? Possono arrivarci a girare intorno a Giulio. Possono arrivare dal tizio? Sì. Vabbè, proviamo. Gli dico chi ha il coltello, che sono due, lo colpisca e gli altri lo blocchino. No, aspetta, cosa c'ha in mano lui? Un'arma? Lui ha un pugnale. Gli altri gli rubino il pugnale. Faccio quattro comandi. Ma non è questo il giorno? Dovresti fare un discorso epico al tuo mini esercito. Tutti sopra il... dal 3 in su, come comandi. Ok. Tiro qua... due per colpire. Chiamo e... Massimo. Cioè, sono tutti e due, tutti di 6, immagino. No, due fisico e due per colpire, giusto? Solo due possono arrivare a colpirlo, perché dall'altra parte c'è Giulio, Shero e una roba di fiamme. Ok. Non temete il fuoco. Lanciatevi. Allora faccio provare due col fisico a bloccarlo, cioè a prendergli il pugnale. Cerca, non so, basta che tiri così. No, però una cosa, per prendere il pugnale è un fisico, giusto? Così dopo se mi colpisce. Sì. Allora fanno due per prendergli il pugnale. Distruggo le cose. Okay, due in lotta. Uno e tre. Ok, uno è in lotta con lui. In lotta corporea? Sì. Arci. Gli altri se possono attivo un potere perdo l'azione, giusto? Sì. Sì. Non attivo un cazzo. Tiro fuori il coltello e io vado a piantare. Non ci puoi arrivare, cioè lui è tra fiamme, Giulio, due tizi e Sheo. Sì, è vero. Cioè è tipo tra 50 persone. È una folla gremita tra te e lui. Gli sparo. C'è una folla gremita tra te e lui, riproviamo, aspetta, posso sparare qui. Però è bloccato. Cosa ci sta? No! Ma c'è una percentuale altissima. Posso muovermi in modo che la mia visuale sia leggermente più libera? Quanto che posso muovere di 6 metri? Ti spiega, una lotta. Sì, ma è una lotta tra un clone e lui. Vai, a parte che tu non sai se è il clone. Ciao, Miki. Ciao. Sì, che so che è il clone. C'è un idiota che lui dice: attaccate. E una marea di fuoco. Il clone urlando. Lo so che il clone è lui. Magari lo fa per depistare. La nostra libertà. Magari lo fa per depistare. Libererò il primo clone, che è lui che mi porterà la tua testa. Cazzo. Sparo. Miro. No, scherzavo. No, Miro è un po' un cazzo, pittore. Di psiche, Miro è un bel bar. Uso un punto psiche e poi cade a terra. Hai tre di psiche. Hai tre di psiche. Anch'io ho tre di psiche. Addio, ragazzi, è bello. Ah! 4. Perché ho usato la psiche? Quando usando la psiche? Hai usato la psiche? Sì. Quindi va a 2. Prendi un punto psiche. E fai una prova di psiche. Io, voi siete i miei nemici. Però, per fare un colpo di pistola che sappiamo che 3 più 2 5. Disturbo del sonno. Magari. Minchia. Ma non potevi provare a lanciargli, ma gli hai sparato o lanciato il coltello? L'ho sparato. Devi provare a lanciargli il coltello. Gli ho sparato. Vabbè, comunque sparato. Sperando di colpire bene. 4. E vabbè, però adesso vediamo se lo becchi. 5 salla. Non si è capito, voglio vedere se muoio. Colpisci. Catta, frullami la psiche, trovo un modo per frullare la psiche, usa i punti X. Ma lui non può schivare se è in lotta. Non lo so. Anzi, passami. Serve un manuale. Questo. Non c'è un manuale. Ah, questo sì. Ti serve questo? Guarda. No, guardami tu. Guarda in miglioria. Scusa, hai fatto 4? 5. No, 4 a colpire, 5 a colpire, 5 tiro di colpire, con 4 a colpire non l'hai colpito. Va bene. E non posso mai colpire il clone. Colpisci il clone? Sì. Ah, per forza? Sì. Perché la locazione fallisce, se fallisce colpisce l'altro. O per forza o perché piace a lui, non lo so. Locazione 1. No. Vabbè, i miei ordini sono stati dati, però. Ci scommetti che faccio 6 scemo? Sicuro. No, non cambia, tanto il mio ha 20% Arci, quindi muore comunque. Ah, bene. Penso. Ah, va bene. Perché è fermo? Sì, a 10, un 20% a 10. A 25 perché punti fermo, di ferita Sanna? Lui alla testa. No, c'è cioè, un 20% a 10. No, aspetta, dimmi. No, no, sì. Ferma lui. Tu quanto puoi fare con la pistola al minimo? 20. Il minimo è 1. Che fa per 20. Fa 20. Ah, allora tira, magari se no, fa... No, non è per 20. Non è per 10. No, per 20. Dai, se fai hai fatto 120 alla gamba. Uno, è uno vivo! Ti ricordo che hai fatto 120 alla gamba di qualcuno. Sì, ma comunque perde la lotta e cade a terra. Ma no, ha 5 punti ferita alla testa. Sono sparato in fronte, sale la bocca della il cazzo, beh, la terra? Beh, gli ha sparato in testa. Sono andato a terra io con un ma no, sale tipo di striscio. Ma stai scherzando? Beh, con proiettili alla testa. Vabbè, lui. No, ok, ma se fosse proiettile alla testa, direi che non sarebbe. Sì, ma 5 punti ferita su 25, vuol dire che la testa. Ma non è bene, Giulio. Posso prendere la katana, Sheo. Disattivo il potere. Disattivo il potere, ok. Perché voi Sheo è dalla parte opposta rispetto a. Perché okay. La teoria è giusto. Giulio, che mi hai trovato la parola che avevo chiesto. Cioè, ora vi mettete a litigare voi no, due. Il momento è proprio questo per fare queste cose. Non lui, quindi non so neanche se riesci a. Cioè, oddio, no. Cioè, lui ti viene lì, ti prova a rubare la katana. Ma sei normali, ma qua chiedigliela. Chiedigliela. Scemo, dammi la katana che la so usare meglio di te. Gliela chiedo. Tra l'altro, no. Cioè, invece di andare lì, scemo, fermo. Cioè, nel senso che avendo l'abilità che ho, il potere che ho. Tu devi scegli uno, io tiro un D8 al posto di sé. Sì, sì. Ma sto fuoco quindi non gli fa un cazzo. Vabbè, mi allontano. Dipende, se lo gira adesso verso lui e prendi i due cloni e Sheo, forse gli fa danno. Mm. No, mi allontano. Ok. Non è un coltello. Ok, lui si guarda intorno, è molto affaticato e molto provato. La macchina intanto fa una sgommata vicino a voi. Vedete che lui scompare. Ok. Salla! Ma scompare come prima, cioè sappiamo che lì è diventato invisibile o scompare proprio? Cioè, scompare. In teoria non può uscire da noi. Ah no, Giulio si è spostato, quindi può uscire, maledizione. Anche se, Detto questo... Ah no, poi può diventare incorporeo. Dalla macchina si abbassa un finestrino e vedete Void. Venite con me, se volete vivere. Ma stavamo vincendo! Tocca a... tocca a Katta. Ah, non lo faccio ripetere. Ha toccato di solo stare zitto, ha fatto un cazzo del tempo. Sali sulla macchina. Tra l'altro Katta ha il libro. Sì. Ancora? Se tu hai il libro in mano. Ok, Arci, vette, Show. Mi fiondo in macchina con la poca energia che mi rimane. Io prima di salire in macchina posso percepire dove può essere... Tipo, probabilmente mi spacco anche gigante. Il finestrino, capito? Proprio dentro da... Se perdi tempo a guardare, non arrivi alla macchina, però arrivi davanti alla macchina. Lo faccio comunque. Ok, tira. 3. Non lo vedi. Devi considerare che scio comunque la gamba mezza storta. Appunto. I meriti che vuoi prendere tutti. Allora, vado alla macchina. Giusto, giusto. Okay. Cazzo, hai fatto un colpo incredibile. Come maestro. Lascia i cloni? Se l'avessi fatto in qualunque altra locazione, praticamente mi avresti mezzo ucciso. Lascia i cloni. Oh, io non mi la testa. Per fortuna hai beccato quella gamba lì. Anche perché non ci stiamo tutti. Ma se lo facevi a beccare no, la testa. Però no. Li potrei disattivare e non farmi andare in coma. Però se gli serve come scudo, li lascio. Vai. Cioè, io ho tirato così in modo tale. Avevo capito che lui fosse. Tu fossi di lato, ho capito. Quindi se lui fosse avessi colpito questo, comunque non c'è. Capito. Capito così, al contrario. Vai. No, perché hai perso un attimo. Perché sono arrivato in macchina. Così, ma poi io mi sono spostato per prendere la katana. Hai perso quello. Vai in macchina, cloni. Cloni li tengo lì come tutti carne in macchina. Salite tutti. Che macchina è? No, aspetta, disattivo quello con poca forza. Con poca, con testa meno matto. Comunque. La macchina è una macchina normale, 5 posti ce li ha. E noi siamo in 6. Più Void. Ok. Ok, digli di salire sul tettuccio. No, poi quando partiamo ne puoi disattivare. Sì. Giulio. Fatti ridare i coltelli. Passatemi i coltelli. Vado alla macchina. Ok. Salite sulla macchina. Appena posso. Parte. Appena anzi, posso disattivo. Fiamme sulla macchina. La macchina parte e mentre parte sentite, vedete sulla portiera una lama che entra dentro e poi la macchina parte e la lama si stacca. Disattivo i cloni. E mentre uscite... La katana c'è ancora, tu usci? Sì. Sì. mentre uscite dal parcheggio, sentite Void che dice: ce li ho, siamo al sicuro. E senti una voce che risponde: perfetto, raggiungetemi. Riconosciamo la voce? La voce la riconoscete perché è quella di Lars. Oh! E direi che qua concludiamo l'episodio finale di questa stagione. Poteva venire Lars a interpretare la sua parte, però. Fa la telefonata. Potevi farlo telefonare adesso e farlo dire a lui. Beh, dai, direi che... Sperando che Lars si unisca alla prossima stagione. ma perché dice sempre che io sono quasi morto da rimettere in ordine? Beh, io sono stato un grande sta partita, cioè pur avendo 8 punti fatica, domanda se tecnica, la mia gamba io come si cura? Io ho 2 punti di psico, letargo. E io non 3. La devo far aggiustare? Sì. Dai. Ok, devo girare allora, con almeno 6 armi per armare i miei cloni. Come volete, questo è l'ultimo episodio di questa stagione e poi se volete possiamo ricominciare dopo l'estate. Sì, lo faremo. Sì. Direi di sì. Finalmente mi sto divertendo a bruciare la gente. Ci vuoi dare l'esperienza? Vuoi che chiudiamo prima? Ma volete, se la volete, la do subito. Vai, daccela. Ingordi che non siete altro, schifosi. Sì. Beh, aspetta, direi che l'ingordo è quello lì di fianco a te in chat. È un po' che non scrivo. No, mi propongo una mozione di sfiducia per il cancelliere Valorum. Il cancelliere Cattoro. 4 punti esperienza a tutti. E Sheo te ne do 6 in più. 6 in più? Per farlo recuperare. Devo recuperare, giusto? Tentativo disperato. Agli altri 3 e non a catta ne do 4 in più. Wow. Basta. Figo. Vabbè, me ne dai in più però anche per l'intuizione iniziale. Da Sheo solo per il recupero. Propongo di togliere 5 a Sheo. Poi vedo a quelli che hanno sparato un punto abilità a sparare, pistola. Purtroppo non a me. Oh, è il mio secondo punto abilità. Un punto in menare, te l'ho già dato, mi sa. In box. E io un punto in katana. Pigliati un punto. No, tu niente punto in katana. Oh. E ce l'hai anche un altro. Giuro quello. Ah, volevo dare un punto a Betfin, group leader. In discorsi. È imbarazzante. E poi... Devo la sala? Davvero prendo un punto in group leader? Ovviamente. Che cos'è? Lo puoi mettere nel curriculum? Ovvio, metti nel curriculum. Conoscenze? Sì. Il punto abilità pistola stacca con punto abilità fucili o sono diversi? No, sono diversi. Okay. E il punto abilità cosa comporta? Che ancora non l'ho capito. Niente, quando arrivi a un tot punti abilità puoi prendere il rango. Tu stai scherzando, ma sai quante volte io farò questa roba del gruppo leader? Quello che ha schivato un botto di colpi, Giulio sicuramente. Io ne ho schivati. Io ne ho schivato uno. Io 2 o 3. 2 sicuri. E forse anche Sheo, mettete tipo schivata, una cosa del genere. A Sheo e Giulio in sport. Io già sport box, magari in box. Esatto, aumentalo agli sport box. Sì, perché mi ero allenato con Arch. Ho un punto. Vabbè, metti un punto in più in sport box, anche tu Arch. Sì, l'ho messo. Una cosa là, per raggiungere il rango è 5-10 di più di abilità. 5. E 10? Non era 10? No. Quindi tu... bene, se non hai niente, 5. Se ne hai già uno, 10, mi sa. Quindi tutti tranne me, giusto? Lo schivare. Tutti tranne te. Ok. Io lo metto come cosa nuova, non avendo sport. Se no, videogiochi. Sì. No, non va bene videogiochi. No, lo so. Dicevo, una volta che hai il rango, scusa, cosa... Il rango ti dà il dado in più. Okay. Quindi per passare da rango 1 a rango 2 ne servono 10, ma da rango 0 a rango 1 ne servono 5. I punti abilità? Sì. Cioè per intenderti, io che ho in pistola ho 3, quando arriverò a 5 tirerò 2 dadi. Tu sei quasi 6. No, tirerai gli 8 invece di 6. Ah, ok. Scusami. Tu hai un rango in pistola. Sti cazzi, allora no, group leader, solo 3 punti abilità. Vedrai che lo userò. Allora, dopo tirerai gli 8 e passo il 6. Ah, ok. ridete, ma sarà importante. Io sono andato in alti, perché l'ho preso in abilità iniziale, un rango. Va bene, ragazzi, direi che abbiamo concluso, giusto? Yes. Sì. Allora, allora concludiamo le innumerevoli dirette e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Io penso che questo sia una specie di fine stagione più o meno complessivo. Ci riaggiorneremo poi nei prossimi giorni. Però non attendetevi dirette a brevissimo, anche se adesso chiedo se loro in sostanza perché quello che ha i soldi va in Sardegna, ve lo dico per chi non capisce. Quello che ha i soldi è quello disoccupato. No, quello che si fa lo sbatto di fare la diretta insultato dagli altri va via. E, No, vabbè, in realtà potremmo fare anche una mini su tipo su Skype se volete. Per me ma adesso io giocare. Vi aggiorno perché magari su Skype vedo che riesco a giocare. Vabbè, però per streamare però per streamare dovreste streamare voi. Eventualmente metto a disposizione a casa mia. Sì. E tu Salla scarica anche magari intanto Hobbs. Vabbè, questo diciamo no, potremmo usare se non solo il podcast anche. Intanto chiudi la diretta che... Vabbè, questo era per dire che comunque non sappiamo i prossimi appuntamenti, però vi ringraziamo comunque sia per tutta questa stagione che è stata esaltante con Unstructured Heroes, Petrolieri Spaziale, Paranoiac, Grande Bro, e abbiamo giocato anche ad Alba di Tulu, abbiamo giocato non ancora, ma lo faremo prima o poi. E Coloni, la nuova campagna Dungeons and Dragons. E quindi grazie a tutti voi per averci seguito. E alla prossima stagione, che in realtà potrebbe essere a breve, ma Clotos che era Clotes. Che... Grazie a Claudio Serena, grazie per aver cambiato nome. No, non è vero, no, vabbè, però sappiamo che ti abbiamo ispirato e per questo ci dovrai dei soldi. No, scherzo, non è vero. Però potresti mandarci un manuale, quello sì. Almeno il PDF. Li regalava, ma non a noi, Giulio. Come sempre, tu sei il lecchino che manda le foto dal Parlamento europeo, ma non ottieni niente. Va bene, bravo Giulio. Gag a parte, grazie a tutti. E vi ricordiamo che ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons and Dragons, anche quella RibGDR, blog ribgdr.wordpress.com. Però lo vedono facilmente. Perché uno ha sempre da dire, cazzo? Podcast RibGDR. No, indicavo la scritta. Non hai capito. E cos'è questa cosa? Cos'è? Catta? Catta sei tu? Catta ti stanno frustando. Va bene, con questi rumori inquietanti. Sta facendo qualcosa in cucina di molto rumoroso. Credo che sia un esorcismo. Ah, ti piace? Va bene. Catta ti veniva a trovare qualche amico per caso. Potremmo giocare all'Alba di Tulu o a Richiamo di Tulu. Sì, abbiamo già fatto una sessione. Va bene, grazie a tutti. Sta facendo la bicchia e alle prossime edizioni. Direi addio Catta. Adesso arriverò picchia in diretta. Aspettiamo qualche secondo. Va bene, col rischio di perdere Catta che viene picchiato in diretta, che sarebbe spettacolare, potremmo metterlo. Eccolo. Okay. Va bene, che non abbiamo era un non so come si chiama, un raccoglibriciole, come si chiama quella cosa? Mamma del delitto. Sbriciola, bravo Catta, sbricioli. Va bene Miki, grazie anche a te e per la pazienza e alla prossima stagione. Buoni saluti destrutturati a tutti voi, Nababbi Petrolieri. Ciao. Ciao. Ah, Catta. Ah, adesso sì, ci metto 3 ore però per finire la trasmissione in realtà. Dimmi. Allora, chi non ci segue una moffetta di mano. Ho beccato tuo fratello una laurea, ti ho detto? Ah, sì, no, non sapevo. Ha una voce assurda rispetto all'Alessino che mi ricordavo io. Beh, l'ultima volta che hai visto scusa quando è stato. Amici del podcast, come sempre avete dei succosi hashtag, ma grazie anche a voi. Ciao a tutti.